Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Eccoci finalmente a vivere un super weekend di sport, anche e soprattutto con voi. Da ora fino alle 19:00 800 24 00 24, questo è il numero verde per commentare ciò che abbiamo visto, che stiamo vedendo e magari ciò che vedremo questa sera con il posticipo primo stagionale che chiuderà la giornata a Palermo. C'è un Inter senza Sneijder, un Inter per la quale Sneijder è incredibilmente, poi ne parliamo con calma, diventato un problema. Valeria Bernardi in regia, Giorgio De Luca in redazione. Intanto le notizie di oggi, quelle già ufficiali, dicono che Vettel ha vinto a Monza davanti a Button e ad Alonso, che ha fatto una buona gara. L'Italia del rugby questa mattina ha perso al debutto mondiale, ma non credo fosse possibile nemmeno sognare un risultato diverso. 32-6, un primo tempo da sogno, quello sì, degli azzurri. 6 pari prima di essere poi battuti dall'Australia nella ripresa. Quanto al calcio invece, e questo è già un argomento molto interessante, la Juventus rovescia addosso al Parma tutta la sua energia, tutto il suo ottimismo per lo stadio nuovo, tutte le sue emozioni, vincendo 4-1 con un grande Pirlo e con i gol di Rick Steiner nel primo tempo, Pepe Vidale Marchisio nella ripresa, nel finale gol della bandiera, non poteva che essere di Giovinco, in questo caso su rigore che ha provocato espulsione De Ceglie e Conte si è giustamente arrabbiato. Una buona Juventus, certamente una buona Juventus, forse oltre le attese. Al di sotto delle attese, ma anche questo rischia di diventare uno dei grandi temi di questa prima domenica del campionato, la Roma. Allora c'è Giovanni Capuano che è collegato con noi, che ci aiuterà a tenere il polso di queste partite. Cosa sta succedendo sui campi? Ciao Giovanni. Eccomi Carlo, ciao, buon pomeriggio a tutti. Beh, sta succedendo che la Roma è sotto per 1-0 all'Olimpico contro il Cagliari, la rete l'ha segnata al 23esimo del secondo tempo Conti su un errore incredibile di José Angel in fase di ripiego difensivo. Roma che in questo momento è anche in 10 perché pochi istanti dopo aver subito il gol lo stesso José Angel si è fatto espellere, in realtà in questo caso una decisione che è parsa assolutamente affrettata da parte del direttore di gara Gava. Gli altri campi 0-0 tra Catania e Siena, sta vincendo 2-1 il Chievo sul Novara, tutto nel primo tempo, al quinto Pellissier, al 24esimo Terot e al 27esimo per il Novara Marianini, 2-0 per la Fiorentina sul Bologna nel primo tempo, al 20esimo Gilardino nella ripresa dopo 2 minuti Cerci, poi la partita fin qui più bella del pomeriggio ferma sul 2-2 tra Genoa e Atalanta, Veloso per il Genoa al sesto, il pareggio di Maxi Morales all'ottavo, poi ancora Maxi Morales al 43esimo nella ripresa, il 2-2 provvisorio di Mesto. Sta vincendo invece 2-0 l'Udinese a Lecce, tutto nel primo quarto d'ora con le firme di Basta e, tanto per cambiare, di Totò Di Natale. Siamo a una dozzina di minuti dalla fine delle partite, un po' su tutti i campi. Perfetto, grazie Giovanni Capuano, che naturalmente resta collegato con noi, pronto a darci aggiornamenti. E tra le pieghe abbiamo visto anche due giocatori che, insomma, è ancora fine estate, quindi piano con gli ottimismi, però due giocatori che sembrano poter diventare importanti per il nostro campionato, sono molto giovani e sono Torge dell'Udinese e attenzione perché a Roma succede qualcosa, Giovanni? Era il gol del pareggio della Roma, l'aveva realizzato Borini, tra l'altro è entrato in campo da non più di 10 secondi al posto di Osvaldo, una invece delle delusioni di questo pomeriggio all'Olimpico, gol però annullato da Gava per posizione di fuorigioco, non tanto di Borini al momento della scivolata vincente quanto sul colpo di testa precedente che scaturiva dalla battuta di un calcio di punizione, quindi gol annullato. Gol annullato e si resta sull'1-0 per il Cagliari, dovranno spiegarmi, spero che qualcuno mi spiegherà che cosa ci sta in campo a fare Osvaldo e Boriello in panchina, Boriello che poi è entrato al posto di Bojan, un altro dei rivedibili, mettiamo così, in questa Roma totalmente insufficiente del debutto. Dicevo, stiamo magari scoprendo qualcosa di nuovo, Torge dell'Udinese che mi sembra un giocatore interessante, questo Maxi Morales, attaccante alto 1,10 m, un nanetto, pescato dall'Atalanta in Argentina, che oggi ha segnato 2 gol a Genova. Adesso però, mentre vi teniamo naturalmente aggiornati su ciò che succede sui campi in tempo reale, magari aspettiamo già qualche vostro intervento, se ne avete tempo e voglia, 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666, nervi a fior di pelle all'Olimpico, c'è un'altra punizione al limite dell'area con Totti che viene atterrato e dunque sarà un'altra punizione da posizione invitante per il capitano. Intanto, digressione sulla Formula 1, naturalmente, perché oggi a Monza abbiamo visto una splendida gara e uno splendido Vettel, è il caso di dirlo. Vettel che a Monza vinse la sua prima gara nel 2008, a Monza ha dominato questo weekend con la pole position e poi la gara di oggi assolutamente imperiale. Alonso è partito molto bene, alla fine è arrivato terzo alle spalle di Button, ma davanti ad Hamilton. Quinto Michael Schumacher nel suo vecchio regno, poi Massa, Alguersuari, Di Resta e Senna. Questo l'ordine d'arrivo di Monza. C'è comunque Vettel che c'è Totti che spara fuori la punizione, ve la dico subito, e si dispera. C'è Vettel invece che allunga le mani sul mondiale, ma anche su questo grossi dubbi non ce n'erano. Sentiamo un po' di voci relative alla gara di oggi, voci di Alonso sulla partenza sulla quale Alonso ha costruito il suo podio. Sì, veramente la partenza è stata molto molto buona, ingegneri hanno fatto un lavoro perfetto per preparare la partenza sia tutto il sabato che oggi i giri che facciamo prima di andare in griglia, tutto ha funzionato bene, sapevamo che fino alla prima curva c'era possibilità di sorpassi perché prendi la scia e qui a Monza c'è tanta strada tra la partenza e la prima curva, abbiamo rischiato, è andata molto bene, è stato un momento magico della gara. Questo era Vettel, mentre il Cagliari, io salto da palla in frasca ma così vuole la cronaca, il Cagliari va vicino al gol del raddoppio, un Cagliari che punge in contropiede, l'aveva già fatto nel primo tempo, nel finale del primo tempo con una traversa colpita da Biondini, ora Kossu che va vicino al gol del raddoppio, spazi larghissimi nella retroguardia di una Roma quanto mai scombinata, mi dispiace doverlo sottolineare di nuovo. Abbiamo però anche una voce di Alonso sulla gara di oggi a Monza e poi vi racconto cosa ha fatto Vettel dopo la vittoria. Sì, veramente dopo la partenza l'entusiasmo sempre cresce e questa volta l'ho goduto un po' di più perché subito dopo la partenza c'è stato il safety car, quindi abbiamo fatto tre giri piano dove potevi guardare un po' a tutte le bandiere, a tutta la gente che era molto molto felice, però poi sappiamo che prima o poi sia al giro 3, al 15, al 40 o al pit stop loro usano la sua velocità e era difficile tenerli dietro, quindi dovevamo rimanere molto freddi, molto calmi, perché se non era possibile la vittoria era possibile il podio dopo la partenza, quindi dovevamo rimanere molto concentrati e alla fine abbiamo riuscito. Abbiamo riuscito, magari non è correttissimo, però il senso è quello. Cosa ha fatto Vettel dopo la vittoria? Ha pianto naturalmente perché era molto felice, perché sa che il mondiale ormai ce l'ha in tasca, anche perché Webber non è andato a punti, il suo compagno di squadra tra l'altro oggi. Ebbene, ha pianto dicendo: sono molto emozionato, quando ho attraversato il traguardo mi sono ricordato della mia vittoria qui nel 2008, Monza è un posto speciale per me. Vettel ha anche insomma fatto una celebrazione, ha dedicato metaforicamente questa vittoria ai 150 anni dell'Unità d'Italia, insomma è stato molto bravo e anche molto furbo, se vogliamo aggiungerlo. Dunque, prima del traffico, poi sentiamo il commento di Mario Poltronieri sulla corsa di oggi e su questo quasi titolo mondiale. È chiaro che manca la matematica, però insomma, sarei molto sorpreso del contrario. Questo bis iridato di Sebastian Vettel che si avvicina. Dunque, Catania-Siena 0-0, partita non pervenuta, che si gioca in un caldo torrido infernale. Il Chievo sta vincendo 2-1 sul Novara, la Fiorentina 2-0 sul Bologna, Genoa-Atalanta ancora sul 2-2, scritto tra primo tempo e inizio ripresa con il pareggio di Mesto. L'Udinese vince 2-0 a Lecce, qui invece il risultato è stato scritto nei primi 16 minuti dai bianconeri, che si confermano comunque una squadra che secondo me quantomeno il girone d'andata con tanta benzina nelle gambe per il premiare di Champions League darà fastidio a moltissime. Il Cagliari vince 1-0 a Roma, gol del solito Daniele Conti, partite in risultati ancora da decidere perché mancano 5 minuti più o meno più recupero alla termine di questa prima giornata di campionato pomeridiana. Ci fermiamo per il traffico. Strade in diretta. Intenso il traffico in Liguria, è difficile la situazione sulla 10 Genova a Ventimiglia, dove ci sono code di 20 km per un incidente tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno verso Genova. Ancora in direzione Genova, ma sulla 12 Genova Livorno si rallenta per il traffico intenso tra Rapallo e Nervi. Rallentamenti per il traffico anche in autosole verso Bologna tra Scandicci e Barberino e poi proseguendo in direzione Milano tra Parma e Fidenza. Più a sud, in uscita da Roma, code per lavori tra la diramazione Roma Nord e l'innesto con la 24 Roma L'Aquila Terra. dicevamo. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per traffico in direzione Bologna tra Faenza e Castel San Pietro. Infine segnaliamo 30 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco in uscita dall'Italia. Ed è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Promo 24. C'è un solo modo per risparmiare veramente sull'energia, produrla. Ed è Fener Solare. Opera a livello nazionale nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici su tetto, destinati a clienti residenziali e business. La filiale del gruppo EDF propone ai proprietari di abitazioni mono e bifamiliari una soluzione chiavi in mano, che garantisce assistenza costante in tutte le fasi del progetto e per tutta la vita dell'impianto, anche a 20 anni dall'installazione. Alle aziende, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese agricole dedica invece sia offerte chiavi in mano, sia soluzioni in project financing per progetti vantaggiosi, affidabili e sostenibili. Informazioni su www.edf-enr-solare.com oppure all'800 90 37 05. A tempo di sport. C'è anche chi scrive: Jovetic è un gioiello. Oppure c'è chi scrive: credo che Button sia diventato un pilota maturo che non sbaglia strategie e fa progredire la sua Formula 1, la sua macchina, quindi adatto alla Ferrari, di sicuro meglio di Massa. Ma questo lo credo anch'io. C'è anche, prima di andare da Manuel Poltronieri, un gol di una debuttante. Giovanni. Eccomi qui, è il gol del Novara, il gol del 2-2, tra l'altro meritato per come si era sviluppato il secondo tempo. L'ha firmato di testa il difensore centrale ex del Parma, Paci. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo se l'è perso la difesa del Chievo, Paci sul lato corto dell'area piccola ha battuto il portiere dei veronesi, dunque 2-2 tra Chievo e Novara. Perfetto, grazie Giovanni, a più tardi. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao, a Mario. Tutti. Allora, grande corsa. Incenso in mano e tutti a inchinarci davanti a Vettel, cosa dici? Sì, senza dubbio, ma questo, ti ricordi già l'anno scorso dicevamo che questo veramente era un campione. Effettivamente ha delle doti particolari, perché riesce sempre a districarsi dalle situazioni più complicate, addirittura come in questo caso andarsene subito dopo aver fatto quel sorpasso Alonso, che era stato velocissimo in partenza e che è stato un sorpasso abbastanza difficile, anche se non così impegnativo come potrebbe sembrare dalle immagini, perché quel punto lì della pista si è ancora relativamente a bassa velocità e si sta completando il curvone, per cui si riesce a passare. Comunque, al di là di queste considerazioni, a me la cosa è piaciuta moltissimo, sì, soprattutto per il duello di Schumacher con Hamilton. Sì. Bisogna dire che Schumi, quando ha una macchina che cammina decentemente, torna a essere un duro, come ben sappiamo, già dai tempi famosi dello scontro con Villeneuve, mentre Hamilton mi pare che in queste ultime corse ha perso un po' il ritmo, è più nervoso. Ma sai, errori, Mario, magari non ci crede più nemmeno lui. È facile essere demotivati quando hai Vettel che va così forte, se il tuo obiettivo è il mondiale. Quanto a Schumacher, non so se sei d'accordo, ma insomma, credo sia un po' come per la Juventus, che giocava in uno stadio nuovo. Monza è uno stadio vecchissimo e pieno di storia, però è il vecchio teatro di Schumacher, no? Sì, beh, senza dubbio, però intendo dire che te lo dicevano finito, se gli si mette in mano una macchina decente riesce ad essere competitivo, cioè riesce a dare spettacolo. Lì sono stati 18 giri di tensione in cui la regia non ha mai staccato una volta sul primo della corsa. Mm. Perché? Perché era troppo interessante questo duello. Mi ha fatto poi piacere che Alonso sia riuscito a conservare il terzo posto, perché così è potuto salire sul podio e vedere gli applausi di questo pubblico italiano e di Monza in particolare, che è quello che ha inventato, si può dire, l'invasione di pista dopo l'arrivo, dopo il traguardo. E poi secondo me c'è anche da notare Button, che è arrivato secondo e che tutti continuano a considerare un pilota modesto, ma però se era tanto modesto, a me ricorda un pilota dei tempi andati, che era Lorenzetti, che correva con la Guzzi 250, sì. Stiamo parlando del primo anno di campionato del mondo, e tutti dicevano: quello è un fermo. No, non è un fermo, è quello, è uno che amministra la macchina, e quando arriva agli ultimi giri ha la macchina più a posto per battere, sì, gli altri. Per usare un paragone forse blasfemo, corre un po' alla Lauda, cosa dici? Sì, è vero, corre un po' anche alla Prost. O alla Prost, certo. Ma il discorso è che noi cerchiamo il risultato. Se diciamo che Schuge è stato troppo violento, allora a quel punto lì dobbiamo correggere tutto. Secondo me, io dico che questa corsa ha fatto dimenticare tutte le carenze che ci sono in questo regolamento, perché poi nella realtà, leggevo stamattina un'intervista a Montezemolo dove ha ripetuto tutte le critiche che noi stiamo facendo da anni, sì, su questa Formula 1. Quindi vuol dire che adesso che si è accorto che non riesce a mettere in piedi una macchina che possa competere veramente con gli altri, vuol riesaminare un po' il discorso del regolamento. Comunque questo è discorso del futuro, non ti voglio far perdere altro tempo, dato che i risultati di calcio incombono. Diciamo che secondo me è stata una corsa molto interessante, fortunatamente Alonso è stato bravissimo, è riuscito ad arrivare terzo, c'è stato questo duello lunghissimo che anche quello io ho trovato la corsa d'antan, la corsa ad altri tempi, secondo me, dove si, come si dice, si va col cuore oltre l'ostacolo, sì. Quindi secondo me è stata una corsa veramente che ci ha un po' riconciliato con la Formula 1, pur essendo un circuito tutto sommato piatto, certo. Perché Monza è sempre stato un circuito solo di velocità, ci ha aggiunto quella infelice chicane di partenza, perché quando le macchine non avevano la tenuta di strada che dà adesso l'aerodinamica, effettivamente arrivare al curvone era un grossissimo problema. Certo. E che adesso è servito a eliminare buona parte delle macchine, e così la corsa è stata più regolare, non ci sono stati tanti problemi di sorpasso. Mi spiace che è rimasto fuori Rosberg, che poteva essere un altro della pattuglia di testa. Mentre il Cagliari, e tra poco Giovanni Capuano ci racconterà il gol di un giocatore che non conosciamo benissimo in realtà, il Kabir. Il Kabir che affonda il coltello sul povero Luis Enrique, e sarà, credo, questo della Roma uno dei grandi temi di questa prima giornata. Domanda secca, Mario Poltronieri, mondiale chiuso? Ah, io riterei di sì, no, cioè sono convinto di sì, perché appunto non è un problema di aritmetica, matematica o altro, è che la superiorità della Red Bull è evidente anche sui circuiti come questo, che tutti davano come negativo rispetto alle caratteristiche della macchina. Vettel sta andando fortissimo, praticamente l'unico elemento negativo che c'è stato per la Red Bull quest'anno, questa gara, è che Webb è riuscito, se no avrebbe portato via probabilmente altri punti, e quindi Vettel sarebbe stato ancora più avanti. Comunque per conto mio non c'è possibilità, anche perché la scala del valore l'abbiamo vista benissimo, le entrate vanno molto bene, i suoi piloti sono complementari l'uno all'altro, uno aggressivo, l'altro sta appunto alla Lauda. Tolti Bagliori e Stivi, insomma, la Red Bull ha dominato questa stagione. Tolti Bagliori e Stivi, la voglia di revanche di McLaren e Ferrari, però sono stati giusto giochi d'estate. Red Bull meritatamente verso il titolo. Mario, ti ringrazio, un abbraccio. Arrivederci, alla prossima. Ciao. Grazie a Mario Poltronieri, Giovanni Capuano e il coltello che il Kabir ha affondato in una Roma improponibile, onestamente. Sì, assolutamente, davvero un gol incredibile, perché non si è trattato nemmeno di un contropiede, semplicemente il Cagliari ha giocato palla sulla fascia destra e il Kabir non ha trovato davanti l'opposizione di nessuno, ha corso per una trentina di metri e poi è entrato in area di rigore, ha battuto Stekelenburg con un diagonale. Del resto la risposta, preso il gol dell'1-0 di Luis Enrique, era stata quella, oltre all'inserimento di Borini, di togliere Rossi e mettere Gago, cioè di fatto la Roma ha giocato gli ultimi 25 minuti di questa partita senza nessun esterno, ha cominciato ad ammassarsi in mezzo, ci ha provato soltanto con alcune conclusioni da lontano, meglio se su punizione di Totti e De Rossi, un po' come alla vecchia maniera, altro non c'è stato, ci sono i fischi per tutto tranne che ingenerosi dell'Olimpico, c'è un altro gol della Roma, finisce qui, 51 minuti del secondo tempo, la Roma ha perso per 2 2-1, la rete l'ha segnata De Rossi, un gol assolutamente inutile che certamente non toglierà dalla graticola Luis Enrique, autore di un inizio di stagione disastroso così come la sua Roma. È finita su tutti i campi, se ti interessa. Sì, allora diamo i finali, Giovanni. Allora i finali sono Catania-Siena 0-0, 2-2 tra Chievo e Novara, 2-0 per la Fiorentina sul Bologna, è finita 2-2 anche Genoa-Atalanta, l'Atalanta proprio all'ultimo secondo si è mangiata in maniera incredibile la rete del 3-2 e poi la vittoria esterna 2-0 dell'Udinese sul Lecce. Questi dunque i finali della prima giornata, resta una partita, quella di questa sera, cioè Palermo-Inter, e tra poco, subito dopo il giornale radio, apriremo tutti questi temi che la prima giornata di campionato ci sta lasciando sul tavolo. Ringrazio Giovanni Capuano, vi ricordo che oggi all'ora di pranzo, e questo è un altro grande argomento di giornata, la Juventus ha battuto 4-1 il Parma con il gol di Rick Steiner nel primo tempo al 16esimo e quindi con Pepe Vidal e Marchisio 13, 28 e 38 della ripresa, e la rete finale su rigore di Giovinco, perché non poteva essere un altro a segnare in quello stadio nuovo, in questo dì di festa. Una Juventus che a Conte, e poi sentiremo anche la voce dell'allenatore bianconero, è abbastanza piaciuta. Conte ha trovato anche il modo di lamentarsi dell'operato dell'arbitro, c'è stato negato un gol e un rigore, su 4-1 si poteva anche glissare, ha detto: mi sono arrabbiato nell'intervallo perché non stavamo raccogliendo quanto stavamo meritando. Rieccoci amici ascoltatori, 800 24 00 24, vostro numero verde, insieme fino alle 19, dunque penso sarete d'accordo se identifichiamo nella Juventus e nella Roma il bianco e il nero rispettivamente, in questa il positivo e il negativo naturalmente. Di questa prima domenica di Serie A, la Juventus che festeggia nel nuovo campo, che dicevo prima spreme tutta la sua energia e le sue emozioni addosso al Parma, che fa da comparsa più di quanto non avessero fatto gli inglesini del Notts County l'altra sera, e con Lick Steiner che giustamente mi segnalano, e giustamente vi giro questa considerazione statistica, verrà ricordato come l'autore del primo gol in campionato in questo stadio nuovo, primo in assoluto, come sapete era stato quello di Toni l'altra sera, ma era soltanto un'esibizione amichevole. Lick Steiner però, e oggi era ben più importante, che apre questa partita. Nella ripresa Pepe, Vidal e Marchisio danno alla la Juventus la vittoria chiara in questa gara. Unico neo l'espulsione, perché di questo si tratta, l'espulsione di De Ceglie è inutile per farlo da ultimo uomo su Giovinco, che poi trasforma il rigore, e su questo Conte si è arrabbiato, tra poco lo sentiremo. Quanto al nero invece, al negativo, una Roma imbarazzante, una Roma improponibile. Valeria Bernardi mi guarda romanista, mi guarda sgranando gli occhi della regia, però lo sa anche lei, insomma, giocava Totti probabilmente come parafulmine, perché accanisce un effesso, nemmeno Luis Enrique, quindi sarebbe stato, con le difficoltà della squadra che oggi si sono viste tutte in questo momento, sarebbe stato anche poco furbo da parte sua tirarsi altre critiche escludendo il capitano. Totti, che si è visto non tantissimo, si è visto esclusivamente, quasi esclusivamente su diversi calci piazzati che la Roma ha avuto a disposizione, su uno di questi, sulla corta ribattuta del portiere, poi c'è stato anche il gol della bandiera di De Rossi, ma sul fischio finale di Gava. E anche questo vale soltanto per le statistiche. La cronaca dice invece che la Roma non ha strusciato pallone. La Roma è stata nel primo tempo controllata senza fatica dal Cagliari, che peraltro al 42esimo ha colpito anche una traversa con Biondini, e nella ripresa giustiziata dal solito Daniele Conti su un errore pazzesco di Angel, nuovo giocatore giallorosso, che peraltro Fini non aveva neanche giocato malissimo. Ebbene, Angel ha rinviato di testa addosso a Conti sul dischetto del rigore, Conti ha stoppato come poteva e ha segnato il gol del vantaggio meritato del Cagliari. Un minuto dopo, fallo di frustrazione nell'altra area, nell'area offensiva, ed Angel è stato con un po' troppa fretta probabilmente espulso da Gava. Poi El Kabir in diagonale, anche qui con la difesa della Roma che ha lasciato uno spazio incomprensibile al Cagliari ogni volta che avanzava. Diagonale del 2-0 al 48esimo e poi gol della bandiera di De Rossi. Quanto agli altri risultati, non pervenuto onestamente Catania-Siena 0-0, ma nemmeno occasioni da segnalare. Dicevo prima che in questo caldissimo fine, in questa caldissima fine d'estate si giocava nel forno a Catania, quindi Catania e Siena 0-0 non poteva forse essere altrimenti. Ben più interessante è stata la partita di Verona, dove il Chievo forse si è illuso di poter sbrigare alla svelta e senza troppo sudare la pratica del Novara neopromosso. È passato al quinto con Pellissier su cross basso di Terot e al 25esimo con Terot dopo velo di Pellissier. Fin lì tutto facilissimo, il Novara che sembrava un po' la banda del buco ha stretto invece i bulloni, evidentemente Tesser è stato anche fortunato nel trovare dopo questo 1-2 il gol di Mariannini su un tocco intelligente di Morimoto, e poi nella ripresa c'è stata l'espulsione di Sardo, quindi Chievo in 10 dal 27esimo per doppia ammonizione, e al 41esimo scusate, Pace ha fatto quello che tante volte ha fatto in carriera, cioè gol di testa su calcio d'angolo, e 2-2 per il Novara che bagna in questo modo il suo debutto in Serie A. E poi vedremo sul campo sintetico. A proposito di campo sintetico, altra curiosità statistica se volete di questa giornata è che il primo gol nel campionato italiano, nella storia del campionato italiano, su un prato sintetico è stato segnato ieri da Lavezzi nel 3-1 del Napoli a Cesena. A proposito, Napoli che ieri sera a Cesena, aspettando il viaggio a Manchester, ha vinto come una grande squadra, secondo me. Poi, sempre oggi pomeriggio, Fiorentina batte Bologna 2-0, abbastanza facilmente, nonostante un palo colpito nel finale dal Bologna su punizione, la partita poteva forse riaprirsi. Però Fiorentina che ha controllato questa gara passando con Girardino magnifico il suo colpo di testa su cross da sinistra, altrettanto bello di Pasquale al 20esimo, al secondo della ripresa Cerci a capitalizzare un assist di Jovetic, e questo è un altro che come sapete ha passato all'ospedale tutta la scorsa stagione, penso sia un grande talento ritrovato per la nostra Serie A, speriamo di riuscire almeno lui a tenercelo, che non vada in Spagna, in Inghilterra o magari in Russia. Questi sono discorsi del futuro, però il presente dice che l'Udinese non si ferma, l'Udinese ha un'ottima condizione derivante anche dalla preparazione mirata allo sfortunato preliminare di Champions League, e l'ha dimostrata tutta oggi a Lecce, lì sì ha vinto senza troppo scomporsi, senza troppo spettinarsi. Secondo minuto, primo gol di giornata, sinistro di controbalzo di Basta su centro basso di Pasquale. Al 16esimo Di Natale a correggere sotto porta di rapina un tiro debole di Torje, che comunque è un giocatore che scopriremo, mi è sembrato oggi da quello che si è potuto vedere, un giocatore piuttosto interessante. Così come piuttosto interessante potrebbe essere questo Maxi Morales, attaccante argentino pescato dall'Atalanta al Vélez Sarsfield e che ha segnato al suo debutto in campionato italiano una bella doppietta a Marassi. Atalanta che era partita in salita al sesto, il gol di Veloso su cross di Palacio, su centro basso di Palacio, dura due minuti perché Morales in tap-in corregge una ribattuta corta di Fre, una respinta di Fre. Al 43esimo azione di contropiede, Dennis che innesca il rapidissimo Maxi Morales per il gol del 2-1. Al nono della ripresa l'Atalanta con uno svarione difensivo regala il gol del pareggio al Genoa, lo segna Mesto. Dunque questi i finali, questo è il succo della Serie A di oggi, aspettando Palermo-Inter di questa sera, e anche qui qualcuno mi dovrà spiegare, magari fatelo voi se l'avete capito, 800 24 00 24. Mi dovete spiegare perché Sneijder, che non giocherà stasera, è diventato improvvisamente, dall'essere più forte e determinante giocatore del mondo, cosa che era fino a 12 mesi fa, ad un problema. Ma come? Ma un giocatore come Sneijder un problema? 800 24 00 24 il numero verde, Armando da Firenze, già in linea a traffico. Un'altra cosa che vorrei capire, stavo rivedendo le immagini della disgraziata partita della Roma, un'altra cosa che mi dovrebbero spiegare è perché Osvaldo gioca e Boriello sta a guardare. Molto semplicemente, è vero che è entrato una ripresa, però Osvaldo grosso modo lo conoscevamo già prima della sua esperienza spagnola, però quando hai un centravanti come Boriello che l'ha sempre sbattuta dentro nelle ultime stagioni e che grosso modo è una garanzia in zona gol, vai a spendere i quattrini per prendere Osvaldo, che oggi ha giocato una partita che ve la regalo. Armando da Firenze, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Ecco, volevo parlare di Pirlo. Sì. Io ho visto giocare oggi, è una bellezza vedere giocare Pirlo. Grandissima partita di Pirlo, vero? Ecco, quello che volevo dire, ma il Milan l'ha dato via per prendere Van Bommel oppure c'è stato un altro motivo? Van Bommel perché c'era già, Armando. Com'è? Van Bommel c'era già. Cioè, è arrivato l'anno scorso, a gennaio Van Bommel. Sì, poi ma volevo dire per fare spazio a lui. No, l'ha dato via al Milan perché ma non è chiaro neanche perché l'anno scorso era finito ai margini del disegno di Allegri, complici infortuni. C'erano questioni contrattuali, c'era probabilmente un rapporto finito, la Juventus l'ha cercato, comunque è un giocatore ancora monetizzabile, voglio dire, da cui il Milan ha ricavato qualcosa e insomma è andata così. Piuttosto abbiamo speso quasi tutta l'estate a dire ma perché la Juventus non ha comprato questo top player, non ha comprato superstar. Dopo averlo detto per tutta l'estate ti accorgi che comunque Pirlo, nonostante la carta d'identità non dica bugie, è ancora a oggi uno dei migliori centrocampisti al mondo. Parliamo di Juventus allora. Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao e grazie. Ciao Mirko. Ciao a tutti voi. Stiamo sviolinando sulla partita di Pirlo. Non so se hai capito. Ma non si può fare altrimenti. È uno dei pochi fuoriclasse che ancora al calcio italiano. Questo è un fuoriclasse puro, che oggi, io lo ripeto spesso, è forse l'unico centrocampista che può giocare titolare nel Barcellona. Con Conte che ha messo in campo una Juventus logica comunque, Mirko. Sì. Molto logica, coerente con il suo modo di pensare e di lavorare, quindi ha scelto giocatori che ha avuto a disposizione per un periodo un po' più lungo rispetto ai nuovi acquisti, ha scelto una squadra logica, molto equilibrata, perché comunque sugli esterni Giaccherini e Pepe hanno lavorato moltissimo e infatti ha dato ragione, anche se dobbiamo dirlo, insomma, il Parma che si è presentato oggi a Torino era piuttosto deboluccio. Dai, non è venuto per non rompere le scatole, per non rovinare la festa, dai. Può essere, hai ragione, mettiamola così, hai ragione. Tanto che hanno fatto segnare anche Giovinco, chi poteva fare il gol della bandiera se non Giovinco? Sotto una pioggia di fischi terrificanti al momento del calcio di rigore. Senti Mirko, ti aspettavi una Juventus come questa? No, così avanti no, devo essere sincero, così avanti dal punto di vista dell'organizzazione del gioco e anche rispetto poi ai giocatori che erano stati scelti inizialmente da Conte, perché c'era fuori, diciamo, mezzo mercato, sì, per problemi fisici e per problemi di condizione. Quindi obiettivamente i complimenti oggi vanno fatti a Pirlo, che è un giocatore magnifico, ma vanno fatti anche a Conte, che in effetti ha lavorato bene, ha messo in campo una squadra ben organizzata, che sapeva che cosa fare e che non ha sbagliato nulla in questa gara, obiettivamente non ha sbagliato nulla. Vidal oggi era in panchina, non è perfettamente in condizione, ma siamo sicuri che sia un giocatore che a Conte può piacere? Ma guarda, io credo che Vidal sia un grande giocatore, a me piace moltissimo, ha la faccia giusta, ha i tempi di inserimento giusti. Mi fa pensare una cosa, a un certo punto quando è entrato Vidal la Juve si è disposta con un 4-1-4-1 e vabbè che sulle fasce c'erano Pepe e Giaccherini e poi Krasic e Giaccherini, ma voi mettete sulle fasce Elia e Krasic o Elia queste Stigarribia, che è ancora un punto di domanda, lasciate davanti Vucinic e mettete Pirlo davanti alla difesa con Vidal, sì, e Marchisio in cursori, secondo me viene fuori una bella squadra e secondo me Conte sta studiando questa opzione. Sì, sì, Conte sta studiando questa opzione e probabilmente sta, pur senza dirlo, sta un po' rivedendo l'idea iniziale. Bravo, piuttosto bravissimo. Bizzarra, no? di questo 4-2-4 che pregiudicato, hai ragione. Che avrebbe mandato in barella Pirlo dopo un paio di mesi. Esattamente. Forse Conte si è reso conto che questo è il miglior giocatore che ha, che va un po' preservato e quindi va un po' protetto là in mezzo, hai ragione. Te che dici? Grazie Mirko. D'abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio, ciao. Grazie Mirko Graziano, buon lavoro. Sentiamo Ficcadenti ai microfoni di Sky. Ho sofferto molto, poi è vero quello che dice Mauro, nel senso che siamo stati in attesa, abbiamo sfruttato forse la prima occasione nel secondo tempo che ci siamo affacciati nella loro metà campo e da lì abbiamo costruito la vittoria. Però devo dire che c'era un caldo incredibile, era difficile oggi tenere 90 minuti, quindi sono stati bravissimi anche nei momenti di difficoltà a tenere e a sfruttare l'occasione. Stiamo sottolineando ciao prima Angelo, il fatto. Prova Angelo, a volare Angelo, basso, sì, come avete sentito, Ficcadenti che oggi ha steso la Roma, prova a volare abbastanza basso. E sì, faceva caldo per tutte e due, faceva caldo per il Cagliari che ha dominato questa per il suo Cagliari che ha dominato questa partita, e per la Roma che invece non praticamente l'ha neanche giocata. Sentiamo cosa dice ancora. Ma è chiaro che il Cagliari ha tanti giocatori, almeno quelli che erano in campo, che giocano da qualche anno insieme. Quindi questo ci ha sicuramente favorito, soprattutto a me che sono arrivato da poco. E per quanto riguarda la Roma, credo che sia cambiato molto sotto il profilo del gioco, il profilo anche di dirigenti, giocatori, allenatore, quindi posso solo fare questa valutazione. Poi hanno fatto una buona partita, hanno giocato, la Roma credo che sia anche in una buona condizione. Non l'ho vista una Roma in difficoltà. Beato lui, non ho visto una Roma in difficoltà, cresce il naso, non può che dire questo, no? Però la verità è chiaramente un'altra. È vero che il Cagliari è un impianto collaudato, sono vere tutte queste cose, però Ficcadenti non può che essere buonista, insomma, nei confronti di una Roma imbarazzante. 800 24 00 24, perché la cosa che mi interessa di più è la vostra opinione. 800 24 00 24, e questo è il numero verde, c'è anche quello dei messaggi, 349 238 6666. C'è chi scrive: lo spogliatore romano è maestro nel giustiziare gli allenatori non graditi, chiedere a Ranieri per referenze. Ci sono anche Facebook e Twitter, pianeti sui quali siamo a Tempo di Sport è sbarcato. Dunque, se volete contattarci, sapete come fare. Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, dottor Genta. Salve. Mi sente? Sì, la sento. Volevo chiederle, io ieri sera ho visto un grande Napoli. Da quello che ho visto in TV, non solo io, anche molti altri l'hanno visto. No? Ha vinto, però, più che un grande Napoli, ha vinto come una grande squadra. Come l'anno scorso, se è d'accordo con me, qualche piccola defiance in difesa. E io non capisco, in una grande squadra come quella che ho visto ieri sera, che cosa ci fanno Cannavaro e Aronica. Io questo me lo chiedo da anni, perché cioè, secondo me Cannavaro non è un giocatore che può giocare in quella squadra. Beh, però abbia pazienza Antonio, con Cannavaro e Aronica, con Cannavaro e Aronica però siete arrivati dove siete arrivati, quindi non... O no? Per giocare con Cannavaro e Aronica. Beh, è tanto, ridicolo. Tanto giochi nel campionato italiano e arrivi terzo, giochi a Cesena e vinci in carrozza prima di campionato. Insomma, è chiaro che il Napoli non è ancora attrezzato per vincere lo scudetto. Su questo siamo d'accordo. Probabilmente mancano due, tre giocatori di livello internazionale per essere alla pari di Milan, Inter, di Milan Inter e Juventus, certamente. Tra Campagnaro e gli altri due, che proprio, cioè, non lo so, eppure ci sono difensori, facceli vedere quello che dico io. Li ha comprati. Chi vorrebbe vedere? Ah beh, lasciando a parte lui, quello lì del Bologna che si è fatto male. Brito, si è spaccato tutto. Si è fatto male. Poi c'è sto Fernandez, Fidelis lì, l'altro argentino, facceli almeno vedere. Sì, no, ma lei ha ragione, però Mazzari li vede tutti i giorni in allenamento, dunque se si affida ad Aronica e a Cannavaro ha le sue buone ragioni. Insomma, è chiaro che non sono due top player, no? Visto questa espressione molto di moda, e a me non è nemmeno antipatica, però non sono due giocatori di livello super. Sta per parlare De Rossi, che invece tra poco vi faccio sentire, questa è una voce molto importante della domenica. Bene, non sono due giocatori di altissimo livello internazionale, però con questi giocatori il Napoli sta costruendo ciò che sta costruendo. De Rossi, con Sky. Ci aspettavamo tutti, la cosa che ci aspettavamo tutti, Daniele, è che è abbastanza difficile costruire una squadra, dargli una fisionomia di gioco, un'idea di gioco. Ti volevo dire se la tabella, insomma, rispetta ai tempi o se secondo te la costruzione del nuovo gioco della Roma è un pochino in ritardo. Che sensazioni hai dopo l'esordio in campionato? No, l'identità... La squadra ce l'ha, l'impostazione anche, manca un pizzico di concretezza, non un pizzico, un bel po' di concretezza, perché arriviamo un sacco di volte lì dentro l'area per fare l'ultimo passaggio, per concludere, ma non arriviamo mai a rete. L'identità si è creata, però bisogna crearne una anche vincente, oltre che magari bella e che mantenga il possesso palla tutta la partita. Pensi che l'ambiente saprà aspettare? Beh, io ho sentito abbastanza tranquillo l'ambiente, ho sentito anche degli applausi a fine partita. Ora non so come vivrà i giorni successivi a questa sconfitta. Sicuramente ci sarà un po' di nervosismo, perché la piazza vuole, ha voglia di Roma. Abbiamo visto oggi come hanno risposto a questa partita con un caldo torrido e sono venuti in 45-50 mila, quindi questo amore a volte si trasforma in impazienza, in poca pazienza, però l'ho visti tranquilli, ho sentito degli applausi, quindi questo mi fa ben sperare. Ilaria? No, io volevo chiederti una cosa. Il grande caldo forse poteva far cambiare tattica, e poi l'atteggiamento un po' distaccato da parte dell'allenatore e dei suoi collaboratori nei confronti di quello che sta capitando e succedendo. Magari io mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi ovviamente. Per quanto riguarda il caldo, dico una cosa che riguarda noi ma riguarda anche il Cagliari, quindi non voglio cercare un alibi. Non si può giocare secondo me alle tre le prime di campionato, almeno le prime 4-5, non penso che ci voglia uno scienziato per far giocare le prime 4-5 almeno di sera, e magari quelle a dicembre farle giocare alle 3. Io penso che non ci voglia veramente uno scienziato, però insomma poteva finire ugualmente 2-1 per il Cagliari anche alle 8:30 di sera, non mi attacco a questo. Per quanto riguarda l'atteggiamento dell'allenatore, io durante la partita e a fine partita non è che insomma sono stato a guardare lui più di tanto, perché poi ero preso dalla partita, però io mi trovo bene, lo trovo una persona molto equilibrata, abbastanza serena, anche quando si perde naturalmente si innervosisce, perché l'allenatore che non vince è sempre solo, è sempre dispiaciuto, ma mi trovo molto bene, non mi sembra una persona distaccata, anzi lo vedo che ha molto a cuore questa avventura. Come le valutate le parole di De Rossi? Lo chiedo a voi. 800 24 00 24, difesa d'ufficio di Luis Enrique. C'è chi scrive: oggi la Juventus ha giocato contro una delle peggiori squadre del campionato, esaltare Pirlo solo per attaccare il Milan è ridicolo, scrive Luca Rimini. Io sinceramente non so cosa dire, mi limito a notare che Pirlo oggi ha giocato una splendida partita ed è stata una buona Juventus. Del valore del Parma ne vedo parecchi nel nostro campionato. Matteo dalla provincia di Verbania, poi ci fermiamo un attimo, buongiorno. Buonasera Matteo da Domodosso, io sto tornando dallo stadio, sono fiero di aver fatto l'abbonamento. Intanto voglio rispondere subito al signor De Rossi. Voglio ricordare al signor De Rossi che noi oggi abbiamo giocato alle 12:30 e c'erano 30 sì. gradi, quindi... Ma sì, Matteo, ma sì, ma sono, sì, sono sì, sciocchezze. No, sono sciocchezze, però intanto il signor De Rossi ha preso due pere, vabbè, fa niente. Volevo dire che avere l'Italia deve essere fiera di aver ritrovato un grande campione come il signor Andrea Pirlo. Ah. E poi volevo dire della bellezza di questo stadio, è quello, di questo Juventus Stadium. Io sono contento di aver fatto l'abbonamento. Poi giovedì era una roba. Ma che aria si respirava lì, Matteo, oggi? Si respira l'aria di che sei attaccatissimo, sei praticamente attaccato. Poi i giocatori chiedevano, non so se avete notato, Pepe chiede tantissimo l'aiuto del pubblico. I giocatori chiedono proprio l'aiuto del pubblico. E poi un Antonio Conte scatenato come non si è mai visto. Comunque... Insomma, la sento fiducioso su di giri. Passo dopo passo, io dopo l'anno scorso voglio fare i giudizi dopo la 12ª giornata. Bravo, fa bene, facciamo davanti, girone d'andata, va. Davanti a questo anche Andrea Pirlo, l'Italia deve essere fiera. Grazie Matteo, buon grazie, viaggio. Complimenti, grazie. Grazie a lei, grazie, buon viaggio. Ci fermiamo, a dopo. Ogni giorno c'è un'amica pronta a darvi un consiglio pratico per imparare a stare bene nel corpo e nella mente. È il Daily Lab di Essere e Benessere, il laboratorio quotidiano che con l'aiuto di esperti vi insegna a essere consapevoli delle scelte che ogni giorno ognuno di noi può fare per migliorarsi. Daily Lab, i consigli della salute. Da lunedì a venerdì all'interno di Essere e Benessere e su radio24.it. In collaborazione con... Uliveto ti fa digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Alcuni dicono Lufthansa, gli altri dicono Chicago, New York, Washington, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Tokyo, Hong Kong, Pechino, Delhi, Singapore. Nessun limite, un prodotto Lufthansa. Con Lufthansa voli verso oltre 200 destinazioni nel mondo a tariffe speciali. Ad esempio Stati Uniti da 419 euro o Asia da 589 euro, andata e ritorno tutto incluso. Per informazioni e prenotazioni vai ora su lufthansa.com o in agenzia di viaggi. Lufthansa, there's no better way to fly. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reform. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reform. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti perché il gruppo Credit Reform è la prima società di recupero crediti del mondo con 533 milioni di euro di fatturato. Con Credit Reform, il vostro credito è sempre al primo posto. 800-425-325 o creditreform.it. 89 24 24. Domanda: cosa fai se vuoi sapere gli orari dei treni? Chiamo lo zio Alfredo, è capotreno. Vabbè, in pensione, però. Qualcosa di più aggiornato? Chiamo l'89 24 24? Giusto. Per info su costi, 89 24 24.it. Traffico dati in aumento su tutte le reti, ingorghi sulla corsia di backup, solo poche aziende sfrecciano sulla corsia di sorpasso. Beh, hanno scelto Fujitsu e Intel. Scopri tutta la flessibilità e la sicurezza dei nuovi storage Eternus DX80S2 Fujitsu con processore Intel Xeon. Per il successo della tua azienda, Storage Eternus di Fujitsu con crittografia built-in. La cassaforte dati flessibile che si integra con qualsiasi infrastruttura IT. 800-466-820. Cambiastorage.it. Scegli ora le obbligazioni Eni, perché la nostra energia è la vostra energia. Scoprite l'offerta nelle banche aderenti all'iniziativa e negli uffici postali abilitati. Offerta valida dal 14 settembre al 4 ottobre, salvo chiusura anticipata. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo disponibile su eni.com, presso le banche collocatrici e Poste Italiane. Mettiamo in circolo l'energia. Soluzioni magazzino? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Vi presenta... Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Una perturbazione molto debole attraverserà le regioni settentrionali nel corso della notte, con pochi effetti, e domani il tempo tornerà quasi ovunque soleggiato in tutta l'Italia. Vediamo il tempo nel dettaglio. Al mattino alcuni annuvolamenti su buona parte del nord, ma con poche precipitazioni significative, anche se non si esclude qualche rovescio temporalesco nell'estremo settore di nord-est. Sul resto dell'Italia cielo in prevalenza sereno. Al pomeriggio ancora qualche rovescio temporale isolato sulle Alpi orientali. Bel tempo su gran parte dell'Italia, con qualche temporale a carattere isolato soltanto attorno all'Appennino centrale e sull'Appennino lucano. Le temperature non cambieranno in modo significativo, tutto al più vi saranno delle lieve diminuzioni, ma resteranno comunque al di sopra della norma del periodo. I venti soffieranno in generale con debole intensità. E con questo è tutto, altri dettagli sul sito meteo.it. Papà, guarda, è un'azienda che vola! No, Matteo, di questi tempi le aziende non volano! Papà, là c'è un'altra! Ma su, Matteo, ti ho detto... Ma non ci credo! È vero, hai ragione! Ma com'è possibile? Io so perché! Lo vuoi sapere anche tu? Partecipa a uno degli eventi esclusivi di Artel in 15 città italiane! È un invito da prendere al volo! Conferma subito la tua presenza! Date e sedi le trovi su artelnet.it. Eh sì, io lo so che è Artel che fa volare la tua azienda! Ma non ditelo a mio papà! Sono finite le vacanze e quest'anno voglio andare in palestra tutti i giorni, a teatro ogni settimana, fuori città ogni weekend e fare shopping ogni volta che mi va. Come faccio a permettermi tutto? Beh, ho scelto classe A. Finalmente settembre. Mercedes-Benz classe A. Da 15.900 euro con eco-incentivi Mercedes-Benz. Come resistere? Dal 17 al 20 settembre, anche la domenica. Per contratti sottoscritti entro il 30 settembre, non cumulabile con altre iniziative in corso. Dettagli su mercedes-benz.it. Su Domus di settembre le spettacolari opere di Eliasson e Reberger tra arte e architettura. Inoltre progetti, foto, oggetti e segreti di Carlo Mollino, uno dei più sorprendenti artisti del XX secolo. E in omaggio Green Energy, l'allegato sulla progettualità sostenibile. Domus è in edicola. Purtroppo da noi non c'è la DSL. Non hai internet? Vai col satellite. Vai con 2Way. Internet veloce per tutti. Scopri 2Way su opensky.it oppure chiama l'800 66 70 20. 2Way, ovunque e subito. Galeo Energy è il distributore ufficiale di Sharp, Solaria, Vikram Solar, Power One. Dopo la pausa estiva, Galeo Energy riparte a pieno ritmo con l'inaugurazione di una nuova sede operativa a Scandiano, Reggio Emilia. Galeo Energy è presente alla Fiera Zero Emission di Roma dal 14 al 16 settembre per presentarti le novità dei suoi prodotti. Visita il sito www.galeoenergy.it. Galeo Energy, il marchio affidabile del fotovoltaico. A tempo di sport. Dobbiamo in onda in tempo per sentire Luis Enrique in diretta con Sky. Penso sia l'uomo del giorno, no? In negativo, naturalmente. No, proprietario della Roma, Di Benedetto, ha affermato che Roma wasn't built in a day. Roma non è stata costruita in un giorno e anche questa Roma avrà bisogno di tempo. Ma quanto tempo, Luis? Perché questo è quello che iniziano a chiedersi adesso anche i tifosi. Questa domanda non me l'avevi fatto nunca, eh? Quanto tempo? Non lo so. Lo che sì sé es que hoy estoy muy molesto por no poder darle a los tifosis que han venido otra vez a apoyarnos de manera increíble y al acabar el partido han demostrado su apoyo a los jugadores y al esfuerzo que han hecho con 10 incluso, que no han arrojado la toalla en ningún momento. Y estoy también fastidiado por los jugadores, porque he visto en todo momento un total empeño y una total determinación. Hay que dominar estos aspectos, sobre todo en defensa, en algún momento ser más contundente y sobre todo en ataque acabar de materializar. Pero soy optimista, 100% optimista. Tengo ahora mismo creo que una muy buena plantilla, muy buenos jugadores en varias posiciones y creo que estoy seguro que vamos a ir adelante, sin ninguna duda. Questo Luis Enrique, insomma, mi sembra assolutamente comprensibile quello che ha detto. Il tempo me lo domando sempre, continuamente. No, ma io dico che se fai una scelta, adesso è chiaro che la palla passa alla società, no? alla nuova società giallorossa. È chiaro che se fai una scelta estrema di confine, molto interessante, anche intrigante, con quella di prendere un allenatore non so quanto condivisibile, ditemelo voi, io avrei fatto altre scelte, però non conta niente questo. Se fai una scelta estrema come questa di Luis Enrique, devi mettere in conto anche con una squadra integralmente nuova, giusto o sbagliata, fate voi, e anche qui abbastanza ingiudicabile, no? Perché molti giovani giocatori arrivati. Se fai una scelta di questo tipo non puoi perdere in casa con il Cagliari e bruciarla, perché non avrebbe alcun senso. È chiaro che si dovrà dare un tempo congruo a Luis Enrique, è altrettanto evidente che l'ambiente a Roma è un fattore determinante. 800 24 00 24, numero verde, poi Facebook, Twitter, messaggi 349 238 6666, e via con l'orchestrina. Valerio Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire su Roma-Cagliari perché ho sentito i commenti prima. Intanto volevo fare complimenti anche ora, un discorso a parte, alla Juve, che ho visto oggi da tifoso romanista. Dico, bellissima squadra e faccio tanto in bocca al lupo anche al tifoso che ha fatto la polemica di prima di poter nel nuovo stadio avere tutte le soddisfazioni che non ha avuto in questi ultimi anni. Comunque, a parte questo, trovo ingenerose le osservazioni fatte sulla partita della Roma, perché in realtà io un Cagliari che ha dominato francamente non l'ho visto. Con le sue armi, dominare per il Cagliari significa tenere comunque in piedi la partita. Però se si vede, scusi se mi intrometto, parlo sopra, però penso che anche vedendo il tabellino della partita si può vedere che c'è stato un ottimo possesso palla della Roma, che poi sia sterile perché la squadra è lenta, perché i movimenti non sono rodati, ma questo ce lo potevamo tranquillamente aspettare, ritengo. Sì. E sono sicuro che se la piazza più che la società avrà la pazienza ad aspettare i cambiamenti, le innovazioni di Luis Enrique, probabilmente ci potranno essere. Senta, ma secondo lei un'opera in costruzione è corretto così? Mi voglio dire filosoficamente, ma è una parola ovviamente eccessiva. È corretto prendere un allenatore con così poca esperienza? O era meglio per un progetto di questo tipo magari pescare un allenatore che avesse un po' più di... Ieri ho parlato con Delio Rossi, non voglio sponsorizzare nessuno naturalmente, perché non... Delio Rossi è un allenatore che io stimo tantissimo. Si è fatto, lo dico perché si è fatto il nome di Delio Rossi per questa Roma. È corretto prendere un allenatore come Luis Enrique? Col senno di poi le osservazioni possono chiaramente essere differenti. No, questa è di prima, perché Valerio, siamo all'inizio. Sì, no, dico di quelle che uno avrebbe potuto esprimere nel momento in cui il nome del tecnico che poi ha preso il comando della Roma è stato ingaggiato. Quindi oggi uno potrebbe, certo, col senno di poi. Io penso una cosa però, che la tendenza attuale sia quella di molte squadre italiane di prendere tecnici estremamente giovani. Io sono intimamente convinto che questa sia un'ottima scelta, perché può portare delle innovazioni che poi aiutino il calcio italiano, che comunque è in difficoltà, non ultimo quest'anno, proprio per l'appunto sono tre i posti in Champions League, quindi a livello europeo è in difficoltà. Quindi questi giovani, pur con poca esperienza, però hanno sicuramente qualcosa di nuovo da sì. dire, insomma, ecco, sì. questo io penso che sia il fattore principale. Allora, assolutamente è vero, poi sa meglio di me che l'Italia non è un paese per giovani e che la pazienza è poca. Però aiutano. Senta, mi ripeta l'augurio al tifoso Juventino di prima, com'era? Non mi ricordo sì, più. Sì, no, tanti auguri. per togliersi molte soddisfazioni che in questi ultimi anni non si sono tolte. Ah, ecco, adesso mi è tornato in mente. Grazie. Un abbraccio. Grazie. Valerio da Perugia, 800-24-00-24, Carlo da Napoli, poi provincia di Ferrara da Nicola. Carlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Io volevo parlare un po' del Napoli, della vittoria di ieri sera. È stata una bella vittoria, devo dire che non mi aspettavo un Cesena così forte. Devo fare i complimenti alla società del Cesena perché ha operato molto bene sul mercato, veramente molto molto bene. Invece oggi ho visto giocare la Juventus col Parma, per carità merita la Juventus, ma il Parma inesistente, veramente inesistente, solo Giovinco. Io penso che il Parma quest'anno avrà davvero parecchie difficoltà. E il Napoli piuttosto, una cosa che ho visto, un po' un Napoli che stentava a carburare, è un Napoli che è un po' un diesel, ecco. Io non questo so bene, in questo momento è normale, mi viene da dire. Abbastanza normale, insomma, al primo impegno di campionato per una squadra che vuole arrivare fino in fondo. Abbiamo visto il Milan, stasera vedremo l'Inter, non aspetto uno spettacolo sì. molto differente, insomma, sì, della Roma non parliamo. Anche perché a differenza, ecco, diciamo così, della Juventus, che non giocherà le coppe, il Milan, l'Inter e il Napoli hanno la Champions, e questo sicuramente farà la differenza. Sicuro. Ho visto un ottimo Hiller. Si è notata la differenza con pazienza rispetto all'anno scorso. Quando si dà la palla a Hiller è come se la si dà in cassaforte, praticamente. Anche qui poco di nuovo sul fronte occidentale, che Hiller fosse un giocatore di livello lo sapevamo. Che il Napoli, Carlo, che il Napoli sia migliorato, sia uscito migliorato, rinforzato al mercato, tutto questo è vero. No, credo che sia ancora un gradino sotto Milan e l'Inter, certamente, credo che sia ancora un gradino sotto queste, perché avrebbe avuto bisogno forse di un paio di innesti di giocatori di alto coefficiente internazionale, però che il Napoli sia uscito rafforzato da questo mercato è indiscutibile. Torno a ripetere, come mentalità, ieri il Napoli ha vinto a Cesena giocando come fanno le grandi squadre, questo è indiscutibile. Ci fermiamo per il traffico, poi Nicola, provincia di Ferrara. Strade in diretta. Traffico di rientro sulle autostrade, in particolare in Liguria verso Genova, si incontrano code sulla A10 Genova Ventimiglia tra Pietraligure e Spotorno e sulla A12 Genova Livorno tra Chiavari e Nervi. Code a tratti anche sull'Autosole verso Bologna tra Scandicci e Barberino in direzione Milano tra Parma e Fidenza. Altre code in uscita da Roma per lavori tra la diramazione Roma Nord e l'allaccio con la 24 Roma L'Aquila Teramo in direzione Napoli. Sulla 15 della Cisa 3 km di coda per immettersi sull'Autosole in direzione Parma. A Milano di tratti lungo il tratto urbano della 4 per un incidente avvenuto tra il raccordo di Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, anche qui traffico intenso verso Bologna con codi a tratti tra Forlì e Castel San Pietro. Ci sono difficoltà anche sul raccordo Siena-Firenze in carreggiata sud per un incidente avvenuto nei pressi di San Casciano Nord. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Continua la corsa al rialzo dell'oro, ma c'è un investimento più sicuro e redditizio: le pompe di calore a metano per riscaldamento. Le pompe di calore Robur valorizzano l'immobile perché ne aumentano la classe energetica, contribuendo ad alzarne il valore al metro quadro fino a 100 euro in più. Le pompe di calore Robur a metano ed energie rinnovabili sono l'investimento migliore per valorizzare gli immobili. Documentarsi conviene su www.riscaldamentorobur.it. Yeah. Tempo di sport. Forse il gol più bello della giornata, e anche qui possiamo, se volete, aprire un dibattito, è quello segnato da Gilardino, che sta parlando con Sky. Oggi è stata una partita difficile, però l'abbiamo preparata nel modo giusto. C'era un caldo impressionante che a volte non ci ha permesso di rimanere, di essere al 100%, però siamo stati bravi, siamo riusciti ad andare in vantaggio subito, a tenere il risultato e poi a raddoppiare nel secondo tempo. C'è stato alcuni momenti in cui ci siamo arretrati un po' troppo e abbiamo subito le azioni loro con Diamanti e Di Baio, che si muovono molto bene, però siamo stati bravi a contenerli. È un gol importante questo, immagino, per la tua ripartenza, molto importante anche per il rapporto con i tifosi, perché spesso nella passata stagione abbiamo sentito il pubblico viola fischiarvi, oggi invece sono stati davvero incredibili, vi hanno supportato dal primo minuto e sono stati sempre vicini alla squadra. Sì, credo che basta veramente poco per, diciamo, l'entusiasmo, credo che il tifoso viola ce l'ha dentro, basta poco per riportare un po' di entusiasmo allo stadio, e fare queste prestazioni ci avvantaggia e basta. Sei alla seconda. La folla è femmina, cioè, Gilardino lo sa perfettamente. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera, quasi. Quasi sera, sì. Va bene. Tifoso interista da Comacchio, perché dici provincia di Ferrara, ma Comacchio. Eh no, io, a me scrivo provincia di Ferrara, Comacchio è Comacchio, tiriamo l'orecchio fino a scherzo. Ma mancherebbe altro. Lei riesce a spiegarmi perché Snyder diventa un problema? Perché io cerco qualcuno che me lo spieghi. Snyder, anzi, Gasperini abbia un bel ravvedimento operoso tipo Conte e capisca che Snyder è fondamentale. Insomma. Perché cambia il gioco dell'Inter. Io l'ho visto giocare a San Siro. Ma Nicola, ma cambia il gioco di qualunque squadra? Ma Snyder è un giocatore... È da pallone d'oro. Ma non lo so, pallone d'oro è una roba che a me interessa poco, però è un super giocatore. L'anno scorso, 12 mesi fa, eravamo qui a capire se era il più forte giocatore del mondo o no, poi sono cose che dipendono anche dal momento, però con la stagione che aveva fatto... Sì, nel senso, da pallone d'oro, come piace lei, top player. Da top player, bravissimo. Top player, però, espressione. È Pirlo. Pirlo è un top player. E la Juve, complimenti, ha fatto un grandissimo acquisto. Siamo qui a sorprenderci? No, anzi, io sono mi dispiace che non l'abbiano dato a noi, sinceramente. Il Milan, se voleva dare un regalino all'Inter, poteva stare, insomma, per una volta. Ma lì la strada l'aveva già fatta, lei si ricorda. Non poteva tornare indietro anni dopo. No, però insomma, Nicola, mi sembra il caso di sorprendersi. Pirlo ha giocato da Pirlo in una squadra equilibrata. È chiaro che la Juventus di oggi era una squadra equilibrata, è chiaro che Conte non lo dirà mai, ma magari qualche pensiero ce l'ha avuto, sì. No? E ha messo una squadra logica, E allora io da interista spero che abbia lo stesso pensiero nascosto. Bravo, fa benissimo. Anche il nostro questa è una considerazione saggia, perché... perché insomma, proprio un giocatore eclettico come Snyder ce n'è pochi. Non so se si ricorda, è partito da esterno di difesa, poi ha giocato esterno offensivo, ha giocato trequartista. Come calcia. Ma sì, è trasformatore di energia, no? È quello che trasforma il gioco della squadra in palle gol, che produce. Quando che uno va allo stadio e guarda certi giocatori, si accorge subito se uno è un top player. Esatto. E Snyder, quando è entrato in campo contro il Milan, noi eravamo là. Appena sceso dall'aereo, ha giocato una si è voltato partita. Due volte, ha fatto due girate su se stesso, ha calciato la palla, abbiamo detto tutti, quello lì cambia tutto. Bravo Nicola, grazie. Ciao, torna a trovarmi. Grazie, certo, Nicola, certo. Da Comacchio, 800 24 00 24, Massimo d'Alessandria adesso. Massimo, pronto? Eccoci. Buonasera. Qua, buonasera a lei. Mi dica, io so già cosa vuol dirmi. Guardi un po'. Io volevo fare gli auguri a quello che ha telefonato prima della Roma, per la Juventus. Voleva fare gli auguri alla Roma. Sì, ecco. Visto che oggi la Juventus ha fatto una bellissima partita, Conte ha aggiustato molto bene la squadra. E Pirlo è un buon top player in mezzo al centrocampo. Sì. Ma anche qui, Massimo, mi sembra che lo stiamo scoprendo oggi. Andrea Pirlo gioca su questi livelli da 8 anni, più sì, o meno. Sicuramente, perché gioco a pallone anch'io. Giocavo a pallone anch'io. E quindi sa perfettamente come Pirlo non può aver disimparato a giocare, non può essere improvvisamente bollito. Certo è che, torno a ripetere, in un modulo 4-2-4 come di quello di cui si favoleggiava sarebbe arrostito nel giro di due mesi. Un modulo di questo tipo gli permette, gli toglie compiti, una squadra più equilibrata ovviamente gli toglie compiti in fase di interdizione e lui è quello che fa girare la squadra. Però io mi sorprendo della vostra sorpresa, signori miei, perché siamo qui a dire mamma mia che giocatore che è Pirlo. Tendenzialmente lo conosciamo, eh? Magari l'anno scorso l'abbiamo visto poco perché è stato più rotto che giusto, e poi perché Allegri probabilmente per il suo nel suo scacchiere non lo vedeva così utile. A torto, a ragione, però che Pirlo sia uno dei più forti centrocampisti del mondo è la più banale delle non notizie, perché lo stiamo ripetendo da una decina d'anni. Vedo Malesani con Sky, oggi debutto pericoloso per il suo genere, ha rischiato di perdere. Non dobbiamo fare drammi, capita una giornata così, soprattutto all'inizio, ho detto prima della partita, avevo detto ci vogliono 5-6 gare prima di andare in sintonia su tutto, ivi compreso il fatto di correzioni in campo, che magari essere un po' più reattivi e magari non subivamo così tanto. Aveva detto che sarebbe stato felice solo in caso di vittoria. Genoano e anche Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. C'è poco da stare allegri oggi, Carlo. Beh, poteva andare peggio, posso dire. Poteva andare peggio al Genoa, ma ti dirò che io in sede di pronostico, se possiamo parlare un attimo di calcio, ho detto che se avessi ancora giocato la schedina avrei giocato 1-2, quindi sbagliavo, però non nel considerare insidiosa questa Atalanta e forse anche difficile che il Genoa trovasse subito una sistemazione giusta, cosa nella quale era maestro Gasperini, tra certo. L'altro. No, ma loro comunque a Genoa, tutto sommato, in una partita che sembrava stortissima come quella di oggi, ho trovato questo pareggio con Mesto. Penso che tu possa essere soddisfatto. Dell'Italia del rugby invece sei soddisfatto o no? Ma sai, è facile dire che si può essere soddisfatti a metà, nel senso che effettivamente il primo tempo l'Italia ha anche messo in difficoltà l'Australia, le ha impedito di giocare, ha giocato con grande orgoglio, anche con grande lucidità. Nel secondo tempo si è vista un'altra partita, può essere di peso anche dall'ingresso di O'Connor. Io credo che comunque alla fine la situazione non è cambiata molto. Abbiamo affrontato l'Australia, che è una delle migliori squadre e sicuramente una delle favorite, la squadra che con questa formazione aveva recentemente battuto la Nuova Zelanda. Però abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti, che sono gli stessi da tanto tempo. La mischia è forte, conquista molti palloni, in difesa la situazione è piuttosto buona, solitamente si riesce a difendere piuttosto bene. Quando si tratta di impostare il gioco offensivo invece le cose non vanno altrettanto bene. Direi che non si può gettare la croce addosso a Orchera, nel senso che Orchera è uno dei tanti mediani che tre commissari tecnici, Kirwan, Berbizier e Mallet, hanno provato, mediani di apertura, senza trovare una soluzione. Giacomo, Orchera non è un fenomeno e non lo sarà mai, questo lo sappiamo. Lui in particolare era già stato provato nel 2004, sicuramente non sarebbe una prima scelta neanche fra i tanti mediani di apertura che abbiamo provato in questi anni. Oggi nel primo tempo in particolare ha fatto una scelta abbastanza incomprensibile e comunque torno a dire, non si può gettare la croce addosso a questo giocatore, però i problemi ci sono. Io ti dirò Carlo che secondo me andremo a giocarci, la do come probabilità, e noi abbiamo Orchera e Bocchino come mediani d'apertura ufficiali, ma potremmo anche andare a giocarci la sfida decisiva con l'Irlanda decidendo di far giocare apertura McLean, che è un giocatore concreto, è un giocatore che al piede più intelligente, sì. È una partita da giocare con la mischia, magari chi lo sa, da Nidi in Isola del Sud, che corrisponde al nostro nord, no. Terreno pesante, eccetera, eccetera. potrebbe starci. Potrebbe starci, cosa... anche se è abbastanza curioso trovarsi a dover sperimentare la soluzione d'emergenza nella, nella gara decisiva, però è chiaro che lì devi giocarti tutto, perché una partita, andare avanti e fare la storia o tornare a casa. C'è chi scrive stasera anche Pazzini va in panca, non solo Snyder. Mi sa che l'Inter non vince. Moratti da Al Gasperini la ricetta per il panettone, non lo so, mi sembra molto presto, prima ancora di giocare. Pazzini va in panchina, ma anche perché insomma onestamente io tra lui e Milito ne vedrei in campo in linea di massimo uno solo. Paolo da Verona, buongiorno, poi Andrea da Lecce. Paolo? Sì? Buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Noi stiamo tornando invece dal nostro campionato, che è la trasferta, siamo andati a Verona, sì. Siamo tifosi del Novara e volevamo esprimere la nostra soddisfazione per questa prima di campionato, pregio, dopo 55 anni che soffrivamo nelle serie minori. Per noi è stata una gioia incredibile, visto che si parlava sempre del Milan, dell'Inter, della Juve, e invece bisogna parlare anche delle squadre... Assolutamente, assolutamente. Squadre come il Novara, mi viene in mente tutte le volte mio amico Simone Sandri che ci racconta lo sport americano da, da New York, il più grande tifoso del Novara che io conosca, sinceramente. Ma non solo per questo, ho una simpatia per, dichiarata anche per il Novara, che oggi è partito malissimo in questa partita e poi l'ha raddrizzata. Andrea da Lecce, buongiorno. Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti. Salve, sono Andrea da Lecce, tifoso del Lecce, e oggi siamo partiti male. Male, male, male. Male, male, male. No, il problema io ho chiamato per questo, perché la scelta di Francesco, che sarà magari il più grande allenatore del mondo, è stata dettata un po' da questa mania, diciamo, di cercare allenatori sull'esempio di Guardiola al Barcellona, vediamo anche la Roma. E mi sembra di essere tornato al periodo fino agli 80 e anni 90, quando esplose il calcio champagne, vari Orrico, Maifredi, che hanno portato per carità una ventata di novità al calcio, sì. Però Maifredi con la Juve quanti scudetti ha vinto, Orrico con l'Inter quanti scudetti ha vinto? Non solo scudetti, quante partite hanno giocato? Poche. Io ricordo che ai tempi ci si collocava sulla scia del Milan di Sacchi, provando con le imitazioni, insomma. In questo caso c'è questa tendenza al giovane, nata grosso modo, se anche qui vogliamo cercare un precedente storico, con Klinsmann, con Guardiola, ma anche con Klinsmann sulla panchina della Germania, eccetera, eccetera. Non lo so, non mi sembra nemmeno una moda così nuova, non mi sembra nemmeno una moda così nuova, al di là degli interpreti che possono essere, oltre ad avere una carta d'identità fresca, bisogna vedere cosa hanno da dare e cosa hanno da dire. Io però voglio tornare sull'argomento Roma, non per fare il Ponzio Pilato, me ne guardo bene, però vorrei chiedere a qualcuno che la Roma ce l'ha vicinissima al cuore, o dentro al cuore, come l'onorevole Paolo Cento. Buongiorno. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Non voglio fare Pilato, me ne guardo bene, ma voi tifosi della Roma, chi volete libero? Totti o Luis Enrique? Ma no, io credo che la Roma deve tenersi ben stretti Totti, perché in questa squadra è l'unico capace di accenderla con qualche passaggio illuminante, e l'allenatore, diamogli il tempo di poter mettere in atto quello che è il suo credo calcistico. Certo la sconfitta di oggi e il modo in cui è maturata pesa, come ha pesato quella in Europa League, però non c'è dubbio che quando apri un capitolo nuovo dal punto di vista societario, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico, sarebbe una follia pensare di rimettere tutto in discussione dopo una giornata. Però il campanello d'allarme sta suonando e continua a suonare, e se Luis Enrique è un allenatore intelligente, come credo lo sia, deve capire che qualcosa deve correggere anche nel suo credo, perché Roma non è Barcellona, l'Italia non è la Spagna. Pensavo di sentirla più carico, le dico la verità, onorevole. No, ma siamo è presto? Ma è presto, siamo depressi poi, perché perdere quando si è tifosi, poi la depressione post partita, cioè. Ma no, la Roma, noi lo sappiamo, oggi allo stadio se ne parlava tra i tifosi, questa è una cosa nuova. La Roma sta facendo una rivoluzione copernicana dentro la città e nel calcio, Questa rivoluzione può andare bene o può fallire, però decretarne la morte anticipata dopo una partita è folle di campionato, è folle. Però attenzione, cioè Luis Enrique e chi sta intorno, lo staff tecnico societario, non devono sottovalutare i segnali che arrivano, perché a mio modesto avviso, dal punto di vista tecnico, lui deve capire che il calcio italiano non è il calcio spagnolo, e se te affronti le squadre come è affrontato oggi il Cagliari, ne prendi 3 a partita e non ne fai uno, insomma. Quindi... Sì, lei parlava di tempo, sa benissimo, meglio di me, che in Italia il tempo è merce preziosa, non ce n'è tantissimo. Almeno io dico aspettiamo la fine di ottobre. Vabbè, fine di ottobre, sì, se il tempo è questo non è tantissimo, come nella politica italiana. Appunto, no, ma la politica italiana il tempo non cambia mai, perché sono sempre gli stessi, del calcio... Dovremmo fare tutti come Cellino e come Zamparini, però non mi sembra che sia, anche perché non è che nella piazza degli allenatori ci sta il mago Zurlì. No, il mago Zurlì no, però qualche allenatore con più esperienza c'è. Insomma. Però io credo che la Roma ha iniziato questa rivoluzione, bisogna dargli il tempo. Certo, a Roma i tempi sono ristretti, io ho detto ottobre non a caso, perché è evidente che se entro la fine di ottobre questa squadra non fa vedere dei progressi tattici prima ancora che il risultato, perché a me mi preoccupa più l'aspetto tattico, cioè il non comprendere che il calcio italiano è un'altra cosa. No, ma oggi il Cagliari passeggiava, prima mi ha chiamato un ascoltatore, diceva no, non ha così dominato, insomma ha dominato con le sue armi, il Cagliari ha trovato degli spazi che normalmente non trova. Se giocava in quel modo c'era un gran caldo, si è chiuso in difesa, ha aspettato il momento opportuno, chiaro, che il fiato veniva meno, e ti ha bastonato, ha fatto che doveva fare. Il Cagliari ha fatto la sua partita e la Roma che l'ha sbagliata, perché non... e poi si è mangiata anche 2 o 3 gol che francamente lasciano molto perplesso. Sì, mi lascia perplesso anche Osvaldo, vai a prendere Osvaldo che grosso modo conosciamo e non mi sembra un fulmine di guerra, e giubili Boriello, che invece è uno che la sbatte dentro ormai da tante stagioni in maniera abbastanza certa. Questa è un'altra cosa che non mi torna comunque. No. Boriello, allora gioca Boriello tutta la vita a parità di ruolo e di tattica, questa è la mia opinione, però vediamo. Grazie onorevole, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Su con la vita, ottobre dunque, onorevole Paolo Cento, non so quanti tifosi da Roma, magari lo scopro adesso, c'è Antonio da Roma già in linea, dicono diamogli tempo, quanto? Fine ottobre poi ne parliamo. 800 24 00 24, traffico. Strade in diretta. Buonasera, traffico di rientro sulle autostrade, si incontrano code in Liguria verso Genova sulla A10, Genova Ventimiglia tra Albenga e Savona, e sulla A12 Genova Livorno tra Chiavari e Nervi. Sulla Firenze Pisa Livorno code dopo un incidente in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Scandicci, code anche sul raccordo Siena Firenze per un incidente nei pressi di San Casciano Nord. Code a tratti sull'Autosole verso Bologna tra Scandicci e Barberino in direzione Milano tra Parma e Fidenza. Sulla 15 della Cisa 4 km di coda per immettersi sull'Autosole in direzione Parma, mentre sulla 14 Adriatica verso Bologna si incontrano code a tratti tra Forlì e Imola. In direzione Roma code sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torri in Pietra per traffico intenso. Trafficate anche entrambe le carreggiate del tratto milanese della 4 e la 8 Milano Varese in direzione Milano tra Gallarate e Castellanza, e verso Varese tra Castelletto Ticino e Besnate. Si procede a rilento anche sulla 4 Torino Milano tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Infine, in uscita dall'Italia, 1 ora l'attesa al traforo del Monte Bianco, ed è tutto, appuntamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Antonio Roma, Luca Milano, buongiorno Antonio. Buonasera. Scusi. Guardi, io la chiamavo, a dire la verità, in controtendenza rispetto a Pirlo, perché io non sono affatto sorpreso dalla partita che ha fatto. Però ma come si fa a sorprendersi? Non ho capito. Però le dico la verità, allo stesso tempo non credo che sia uno dei migliori centrocampisti attualmente in circolazione, perché Pirlo gioca queste partite alla prima di campionato col Parma, e poi quando c'è da fare legna, lo dico da milanista, tendenzialmente scompare, nel senso che... Quando? Io non ricordo negli ultimi 10 anni partite storiche del Milan in cui Pirlo abbia lasciato, quando ci si trattava di correre soprattutto. Beh, insomma, in più, Pirlo, lei sa meglio di me, essendo milanista, Pirlo si è reinventato in quel ruolo acquisendo doti di interditore che ovviamente prima non aveva. È altrettanto evidente che se lo fai cuocere in un centro, in una squadra sbilanciata, Pirlo non ha un fisico da Superman, no? E quindi che già la Juve ha dovuto cambiare modulo, ma per far giocare Pirlo. Ma no, non ha cambiato modulo per far giocare Pirlo, ha adottato un modulo molto più saggio, secondo me. E in modo di questo tipo, molto più saggio, Pirlo ha giocato come sa, quindi la sorpresa è zero. È evidente, torno a ripetere, che se Conte avesse insistito sulle sue bizzarrie estive in termini di modulo, Pirlo è un giocatore che dura 2 mesi, insomma, ma fisicamente, non come vediamolo quando ci saranno le partite dove deve mettere la gamba e correre, insomma, perché giocatore comunque anche in avanti con l'età, un triennale a Pirlo, insomma. No, ma su questo possiamo discutere, sul fatto che oggi, l'11 di settembre 2011, Pirlo sia ancora uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Mi sembra un'affermazione che ha diritto di cittadinanza, che anzi mi sorprende il fatto che venga, mi sorprendo della sorpresa di fronte a una partita di questo tipo di un giocatore che ne ha giocate migliaia di partite di questo tipo come Andrea Pirlo. Quindi lei è molto critico nei confronti di Pirlo. Pirlo non è un giocatore che deve far legna, Pirlo è un giocatore che deve far girare una squadra come ha fatto oggi con la Juventus. Quindi Luca Milano, buongiorno, buonasera. Buonasera, buongiorno, vale tutto. Io ho 3 domande molto veloci. Sì. So che sono 3 domande polemiche, so che a voi non piace la polemica, però perché proprio no? Per questo. Perché no? Ma proprio perché so che potrete darmi una risposta sincera e onesta, siccome vi conosco come programma, la faccio proprio a voi per essere smentito, se è possibile. La prima domanda è su Forlan. Sì. Io credo che l'Inter, in ogni caso, pur ammettendo l'errore, non avesse altra scelta. E non capisco perché alcuni giornali che pubblicavano 5 pagine di articoli su Forlan così, nessuno abbia detto anche io ho sbagliato, oppure durante il giorno della Supercoppa, quando si dava Snyder al Manchester City, nessuno abbia detto io ho sbagliato. Una domanda veloce. No, aspetti, rispondiamo punto per punto così. Su Forlan l'Inter non avesse altra scelta in che senso? Cioè non poteva prendere un altro giocatore? Non ci sono altri giocatori, cioè comunque penso che Forlan sia l'attaccante da prendere, indipendentemente dal fatto che possa o no giocare la Champions League. Beh, insomma, è un danno non da poco, ma d'altra parte è un discorso che si fa, no? Se un giocatore può giocare la prima fase di Champions League, è chiaro che lo prendi più volentieri. Ce ne fosse... non capisco, i giornali nessuno se ne accorge. Beh, ma sa, che non se ne accorgano i giornali è grave, che non se ne accorga uno che prende Forlan mi sembra un po' vagamente più grave, insomma, leggermente più grave. Assolutamente sì. Le altre 2 domande velocissime: perché nessuno si è stupito del costo di Nocerino e perché se la Juve, come ho letto oggi le cose sui giornali che mi hanno fatto veramente star male, si ritiene innocente, perché non hanno invitato Moggi Giraudo alla festa di inaugurazione dello stadio? Grazie mille, aspetto di essere smentito, per piacere, domande che non riesco a smettere di farmi. Ma su Nocerino perché? Perché 500.000 euro per un nazionale nel pieno della propria forma. Quindi cosa c'è sotto secondo lei? No, non lo so, però nessuno si fa delle domande. Cioè, io me le faccio le domande, non capisco perché quel prezzo. Sì, non capisco perché quel prezzo, bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati. Cioè, se vogliamo sottintendere che il Milan ne ha pagati di più o che c'è un canale preferenziale, o che non so perché quel prezzo, sinceramente non riesco a rispondere a questa domanda. Non voglio invece rispondere a quell'altra, perché se no facciamo, ma non notte, domani mattina, e sinceramente oggi preferisco parlare di calcio con la prima di campionato. Sul resto, su chi la Juventus ha invitato alla festa di inaugurazione del suo stadio, è una cosa che mi interessa davvero pochino. A proposito di Juventus, volete sentire, non l'abbiamo ancora fatto, cosa ha detto Antonio Conte oggi dopo aver vinto con questa partita con il Parma, con grande entusiasmo, con grande autorità? Sì, tante belle cose, però non deve illudere nessuno, assolutamente. Noi, ripeto, siamo siamo in fase di costruzione, siamo partiti dalle fondamenta. Dico sempre che abbiamo bisogno quotidianamente di mettere mattone su mattone per la costruzione di una casa che vogliamo che sia un edificio importante nel presente e nel futuro. E quindi c'è tanto da lavorare su tutto, però devo dire che sono contento dell'interpretazione data dai ragazzi, sia nella fase offensiva, forse ancora meglio nella fase difensiva. Devo trovare un difetto sicuramente, mi ha dato molto fastidio prendere quel rigore, quell'espulsione su una partita ormai finita. Questo Antonio Conte, io invece saluto e ringrazio Gianni De Biasi. Ciao Gianni, grazie. Ciao Carlo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao, è sempre un piacere. Senti, a proposito di Conte, prima dicevo, non lo ammetterà mai, però oggi ha presentato una Juventus equilibrata, altro che 4-2-4 e cose di questo tipo. Sì, è una Juventus che con i due esterni di centrocampo nel primo tempo e fino a che è rimasto in campo Pepe e Giaccherini sulla sinistra, direi che hanno dato una grossa mano anche in fase difensiva. Però la cosa fondamentale è che ti seguivo perché sono in macchina, sto tornando da Torino, ho visto la partita oggi, sì. E ti dico che Pirlo oggi ha fatto una grandissima partita, ma non c'era da stupirsi come tu non ti stupisci. Mi stupisco dello stupore, caro Gianni. Sì, è la cosa secondo me fondamentale in una squadra, che ci sia il cervello, che ci sia chi prende in mano il bandolo della matassa nei momenti particolari, che gestisca i tempi della squadra. Oggi Pirlo ha fatto delle cose straordinarie, ha fatto due lanci filtranti bellissimi, proprio uno a Marchisio, e Marchisio ha fatto un gol bellissimo, e l'altro nell'occasione del primo gol. Oltre a recuperare palla, è il giocatore che, come dicevi giustamente tu, è cresciuto molto, e non è vero che non incontra, e non è vero che non difende, e non è vero che non corra, corre il giusto, cioè corre in modo intelligente, ma quello, esatto, che più conta è che fa correre la palla. Esatto, e se lo dico io non conta nulla, se lo dici tu, mi sembra che abbia un altro peso. Ma poi... Se vogliamo Carlo, possiamo dire, allora, oggi il Parma era una squadra all'altezza della situazione, tu dici, ho visto molte squadre, sì è vero, bisogna probabilmente valutare tutto l'aspetto quando la Juve ha incontrato il Milan, l'Inter, il Napoli, la Lazio, e quindi ti puoi fare già un'idea diversa. Oggi i facili entusiasmi sono così un po' sulla punta della lingua, e tutti i tifosi della Juve, ai quali auguro magari di vincere nuovamente, però è chiaro che secondo me il Milan è sicuramente su un gradino più avanti. La Juve ha la fortuna, tra virgolette, di non partecipare alle coppe europee, e questo non è cosa di poco conto, specie per Andrea Pirlo, che si può allenare con regolarità tutte le settimane, invece non allenarsi mai. Non c'è dubbio. Gianni, invece, avrai sentito allora anche l'onorevole Paolo Cento dire: beh, Luis Enrique, diamogli tempo, fine ottobre può bastare. Sì, l'ho sentito tanto, mamma mia, un progetto lunghissimo. A lunga scadenza, Sì, a lunga scadenza, come siamo soliti fare in Italia di solito. No, direi che aveva fatto una prima parte del discorso molto interessante, dicendo che ci vuole tempo per, e poi alla fine, diamo il tempo fino ad ottobre, mi piace poco. È chiaro che la Roma non è partita benissimo in questo inizio di stagione, è uscita in Europa League, li ho visti con lo Slovan Bratislava, li ho visti a Valencia contro il Valencia in amichevole, il torneo Naranja. E sicuramente ci vuole del tempo quando si vuole cambiare completamente anche la mentalità della squadra. Quello che mi ha fatto piacere in settimana è vedere alcune dichiarazioni di disponibilità da parte di Totti, che direi che era un po' l'anello debole. Beh, certo. di questa catena. Certo, mi spieghi un'ultima cosa, cui io sto cercando di trovare risposta. Beh, sulla Roma, come la domanda che ho fatto, no? Cioè, come si possa spendere anche dei quattrini per prendere Osvaldo e relegare alla panchina o cercare di vendere un giocatore come Borriello, tanto per cominciare. È che erano probabilmente convinti di trovargli una sistemazione a livello di squadra europea, sai, magari da Leonardo, ma poi alla fine è saltato tutto perché è diventato tutto più difficile. Non lo so adesso, francamente, sai, devi entrare nella testa degli altri, anche se io sono convinto che la Roma sia in ottime mani, sia con Baldini che con il mio amico Walter Sabatini, sicuramente è in ottime mani. Poi sì, è chiaro che l'ambiente, tu lo sai meglio di me, non aiuta certamente, perché si vorrebbe tutto subito, e quando si fanno rivoluzioni tra virgolette di questa entità serve un po' più di un mese e mezzo, dici? Sì, oppure io condivido abbastanza con te il discorso che se prendi Luis Enrique devi mettere certo in conto tutte queste difficoltà. Ma è naturale, una scelta prendevi estrema. Prendevi uno a caso, Deglio, senza dire il cognome se no viene troppo riconosciuto, probabilmente aveva una conoscenza sia dell'ambiente romano che probabilmente aveva anche una interazione migliore con Sabatini. Un'ultima domanda, Gianni, che arriva dagli ascoltatori per te, ma arriva soprattutto da me. Snyder, sì. Ma come può Snyder diventare un problema per una squadra? Allora, diciamo una cosa, allora Gasperini ha intenzione di giocare con questo 3-4-3. Io parto dal presupposto che rispetto tutte le idee dei vari miei colleghi, però è chiaro che quando uno ha una squadra più o meno formata con dei giocatori che hanno delle caratteristiche, sono convinto che bisognerà adattarsi alla situazione nuova, secondo me, questa è la forza, non puoi essere integralista all'ennesima potenza, bisogna cercare di fare le cose, far combaciare quelle che sono gli ingredienti che hai e assimilarli al meglio. E Snyder è un giocatore straordinario quando gioca dietro le due punte. L'Inter le due punte ne ha più di due di punte. Davanti possono coesistere tranquillamente Pazzini e Milito, sì. Oppure Pazzini Zarate, oppure Milito Zarate con Forlan sicuramente, però me l'avevo dimenticato, ma non l'ho messo in seconda battuta, scusami. È chiaro che poi tutte le cose devono essere, adesso vediamo come per te, perché poi sono sempre i risultati che ti fanno, che ti danno la bontà del tuo lavoro e ti danno la forza e il tempo e la possibilità di perseguirle. Gianni, ti ringrazio, un abbraccio, buon viaggio. Figurati, è sempre un piacere. Grazie. Ciao, un saluto a tutti. Grazie davvero, Gianni De Biasi. Sono le vittorie che ti danno il tempo. Luis Enrique ne ha fine ottobre, poi ne riparliamo. Ci fermiamo. Poi Francesco da Napoli, Leonardo, provincia di Siena, 800 24 00 24, numero verde. Sono David Bellino, responsabile IT di Knauf Italia, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi costruttivi a secco. 3 anni fa, per le telecomunicazioni del nostro gruppo, ci siamo affidati a Welcome Italia, per le soluzioni innovative e per il servizio clienti che risponde sempre in tre squilli. Con Welcome Italia la qualità dell'offerta è garantita da un know-how tecnologico in costante evoluzione, proprio come ogni nostro sistema e soluzione per l'edilizia. Per il massimo comfort abitativo adottate quindi i nostri sistemi costruttivi, ma per le telecomunicazioni della vostra impresa vi consigliamo Welcome Italia. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazioni per la vostra impresa. Scopri la differenza, chiama l'800 945 945 o visita il sito welcometalia.it. Ingrati. Ma cosa credete? C'ero prima di voi. Dite che spavento, eppure scatto nell'ira, nell'amore. Sono madre del fragore, padre dell'azione. Brivido! E concentrazione. Nata libera, ora intrappolata qui dentro, al vostro servizio. Juke è energia. Tu a 14.950 euro e lo paghi da marzo. New Nissan Juke. Energize the city. Fino al 30 settembre in caso di permuta o rottamazione. Medusa Film presenta il nuovo capolavoro di Roman Polanski, in concorso alla 68esima mostra del cinema di Venezia. Il premio Oscar Jodie Foster. Vittime e carnefici non sono la stessa cosa. Il premio Oscar Kate Winslet. Sono felice che nostro figlio abbia pestato a sangue vostro figlio. Il premio Oscar Christoph Waltz, Carnage, dal 16 settembre al cinema. Ma lo sai che da Expert, se compri un computer, ti danno anche uno smartphone? Non ci credo! Invece sì! Il notebook HP Pavilion DV6 6132 SL con processore Intel Core i7-2630QM. Grafica dedicata da 1 giga, ideale per elaborazioni foto e video, abbinato allo smartphone Samsung Corby. Costa solo 699 euro. Vendita abbinata valida dal 1 al 17 settembre 2011. Info e dettagli in tutti i materiali presenti nei punti vendita aderenti. Lo voglio anch'io! Paola Cortellesi uno prima, ciak. Oh, mi ha regalato 100 rose rosse. Quanto me vuole bene. Ma mica quel rosso un po' gnegne. No, il rosso del Brio Blu, la rossa. Quel rosso un po' piacione. Blu leggermente frizzante, rossa frizzantissima. Acqua minerale Brio Blu. Rosso blu mi piaci tu. 89, 24, 24. Domanda, è domenica e al parco un'ape ti punge una mano, che fai? Giro come un pazzo a cercare una farmacia, così mi fanno male i piedi e mi dimentico la mano. Oppure? Chiamo l'89-24-24 e chiedo la farmacia di turno. Giusto. Per info su costi, 89-24-24.it. Le chiavi dell'auto? E saranno sul mobile, dove le metti sempre? Non le trovo, e fra poco scade lo sconto Esso Self Più di 10 centesimi al litro. Nelle tasche? Trovate! Quest'estate fai rifornimento nell'orario di chiusura. Hai la qualità dei carburanti Esso e risparmi 10 centesimi al litro con Esso Self Più. Iniziativa valida ogni giorno fino al 3 ottobre. Per acquisti con accettatore Self Prepay sconto sul prezzo consigliato servito. Punti vendita partecipanti su esso.it. Risparmia ogni giorno con Esso Self Più. Ma chi mi dice con chiarezza e competenza quando potrò andare in pensione? Io devo presentare l'ISEE per l'assistenza sanitaria alla scuola materna. Ho bisogno di una badante per assistere la mamma anziana. Insomma, previdenza, assistenza, sanità, fisco, immigrazione. Chi mi sa dire esattamente quello che mi serve? Te lo dice EPASA, nelle oltre 1000 sedi CNA. EPASA e CNA, valore d'insieme. Fiat Professional presenta... So Diego, ti spiego il nuovo Ducato. Diego, lo sai che il nuovo Ducato ha quattro nuove motorizzazioni Euro 5 da 115 a 180 cavalli? Un quadromotore equino? E ha i consumi più bassi della categoria. Non sto più nella pelo d'odaino, voliamo in concessionaria. E fino al 30 settembre tuo da 13.900 euro de tax con qualsiasi usato. Un furgone smaltante a un prezzo accattivante. Nel mezzo del cammin di nostra vita, Gassman incontra Dante. Amor, a nullo amato amar perdono. I più bei canti della Divina Commedia in eleganti cofanetti DVD, in edicola, con il Sole 24 Ore. Fatti non foste a viver come bruti. A tempo di sport. Vorrei che questo spazio della domenica dalle 16.30 alle 19 fosse sempre più lo spazio degli ascoltatori che chiamano e che fanno sentire la loro voce. 800 24 00 24 è il numero verde. Francesco da Napoli, Leonardo, provincia di Siena. Buonasera Francesco. Buonasera, buonasera. Dica. Naturalmente sono un tifoso del Napoli, contentissimo, sì, del esordio. Se è solo giunto il momento di un cambio tattico, visto che... Visto che Maggio gioca a 4 in nazionale, Hamsik fa lo stesso nella Slovacchia come mediano, come mezzala sinistra. Si è giunto il momento, insomma, di abbassare Maggio e Dossina sulla linea 4 di difesa con solo due centrali. Hamsik a centrocampo con Gemare Inder e inserire Pander. Francesco, però Mazzarri ha sempre giocato così e a differenza di prima si parlava, avrà sentito, no, di chi deve un po' adattarsi magari ai giocatori che ha. Ebbene, mi sembra che il Napoli sia una costruzione compiuta, no, su questa traccia. Sarebbe direi addirittura pericoloso quello di cambiare faccia in questo momento. Non vedo nemmeno le ragioni, le dico la verità. No, io sì, in campionato sì, se vuoi vincere il campionato sì, lo devi azzardare. In Coppa no, manterrei l'assetto storico della squadra. Però in campionato se lo vuoi vincere devi azzardare. Non sono così d'accordo. Secondo me la fisionomia, la faccia non si cambia. Soprattutto non si cambia in funzione delle competizioni e degli avversari, perché mi sembra un segno di debolezza. Cioè non ci si deve adattare agli avversari. È chiaro che per il Napoli il campionato ha un peso, cioè quello di una magari conferma di quanto di straordinario ho fatto lo scorso anno, che sarà molto difficile. Sinceramente la Champions League per il Napoli è un bel viaggio, una bella avventura, ma detto questo non penso che ne possa avere grandi ambizioni, ma semplicemente perché non è attrezzato, non è a livello delle grandi squadre europee ancora, ed è l'augurio che posso fare ai tifosi napoletani. Però voglio dire, cambiare faccia in funzione della competizione o cambiare faccia in omaggio a chissà che cosa mi sembra sbagliato. Anzi, addirittura Mazzarri era stato preso in origine proprio perché faceva questo modulo che tanto piace a De Laurentiis, e poi funziona, quindi lasciamolo lì, vediamo finché va. Leonardo, provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno signor Gente, io volevo parlare della Fiorentina. Sì. Io da come ho visto la campagna acquisti mi sembra che si sia rafforzata. rimane in piedi la questione Montolivo, che sinceramente non riesco a capire in maniera completa. Un po' pallosa, questione Montolivo. Un po' pallosa. Vagamente sì, pallosa. Ogni giorno. Ma rinnovo, non rinnova, rinnoverà e chi lo sa. Mi sembra sinceramente una questione di retroguardia. Montolivo attualmente è un giocatore della Fiorentina, poi il resto sono abbastanza cavoli della società. Se vorrà rinnovare, rinnoverà, altrimenti no. Ma penso che ai tifosi poco debba interessare a questo punto se Montolivo rinnoverà o no. Insomma, vediamo. Se firma, ha rinnovato, giocherà la Fiorentina, altrimenti andrà via. Attualmente, in quel caso credo che la Fiorentina potrebbe fare un campionato, di essere un buon campionato, di essere forse la sorpresa, come ha affermato, mi sembra, anche Lippi in una può essere. È un campionato difficile da leggere, in cui ci sono molte squadre in difficoltà, in cui c'è abbastanza equilibrio. Piuttosto per la Fiorentina, il grosso vantaggio della Fiorentina è stato quello di aver recuperato un giocatore come Jovetic, che era in rampa di lancio. L'anno scorso si è spaccato un ginocchio, è stato fuori tutta la stagione. Oggi l'abbiamo visto e abbiamo visto un giocatore che può fare davvero il salto di qualità definitivo. È chiaro che l'aver confermato Gilardino mi sembra, si è visto oggi sul campo, un discreto colpo. Ha fatto un gol magnifico e è un giocatore che comunque 15 gol te li garantisce come minimo. Dunque Fiorentina squadra interessante, certamente, come lo era l'anno scorso, come era nelle passate edizioni del campionato. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Se io ti dico 20 novembre 2010, tu cosa rispondi? L'ultimo giorno del Real Madrid in testa, prima di perdere 1-0 contro il Barcellona. Sì. No. 1-0, non mi pare. Quanto ha perso? Mi ricordo. 5-0, la manita. Ma lo so perfettamente, Filippo, dai. Grande. L'hai seguito oggi? Ho letto sulla Gazzetta con attenzione il tuo pezzo. Dicevi del Saragozza che non ha neanche combattuto nel Real Madrid. Il Getafe è qualcosa di più ci ha dato. Insomma, però anche il campionato spagnolo, se diciamo che il Parma non è un valido banco di prova per la Juventus, figurati Saragozza e Getafe per il Real Madrid. Il Getafe si è comportato molto bene, ha fatto per me un'ottima partita, però è chiaro che c'è stato un errore arbitrale al momento giusto, che ovviamente un po' ha condizionato, però secondo me avrebbero perso lo stesso. Ma avrebbero perso perché effettivamente Benzema, Ronaldo e Osil sono in gran forma, e lì poveretti, insomma, questi ci hanno provato in tutti i modi, poi hanno preso 4 gol, ne potevano, sono stati anche 2 pali, insomma, potevano anche prenderne di più. E è un po' quella la differenza. Quando è entrato Kakà era ispirato, ha giocato poco, neanche 20 minuti, però insomma c'è troppa differenza secondo me a livello offensivo. E comunque Barcellona, sì, che l'anno scorso aveva perso in casa con l'Hercules dopo la pausa internazionale, quest'anno ha pareggiato con che poi l'Hercules è stato retrocesso. Ieri ha pareggiato con la Real Sociedad, che tra l'altro è una squadretta dignitosa, ha vinto a Gijón la prima partita. Sì, però se il Milan si fa venire per pensieri impuri solo per questo 2-2 sbaglia tutto, perché no, martedì questo sarà un altro film. Pure peggio, come diceva giustamente il mio collega Condò oggi sulla Gazzetta, pure peggio che abbiano pareggiato così. Diciamo, l'effetto sorpresa già l'hanno superato, nel senso, ecco, hanno capito che se non stanno attenti anche loro possono sbagliare, perché ieri, sai, poi dopo è partito con questa formazione strana. Ogni tanto Guardiola lo fa, ormai io mi ricordo questa memoria, in questi 2-3 anni ogni tanto deve scritto della Guardiolata, cioè lui ogni tanto ci prova a fare delle formazioni strane, spesso gli va bene perché ha dei fenomeni, però ieri poi appunto quando Messi è entrato voleva risolvere tutto. Vabbè, lui, fallo divertire. Lasci divertire anche lui, no? Si inventa qualcosa ogni tanto, sennò si corre il rischio di addormentarsi. Questo rischio è quello che corre anche il Barcellona, che ieri sera si è fatto un pisolino e ha fatto questo 2-2. Sì, sai, 2-0 all'undicesimo, pensi che la partita sia finita e non hai mica tutti i torti, visto che nel 90% dei casi è così. Ieri è andata un po' diversamente. Certo, però che Fabregas la mette tutte le volte. Sì, ha una media straordinaria. Beh, ieri ha giocato anche 90 minuti. Prima mi sembra che fosse tipo con 4 gol in 87 minuti complessivi. Insomma, ieri ha un po' rovinato la media perché ne ha giocati 90. Però sì, insomma. Guarda, adesso senza farsi troppa pubblicità, però grande intervista a Xavi che uscirà martedì su Extra Time. Spiega l'utilità di Fabregas e tante altre cose a livello tattico in maniera geniale per me. Io, mi capita tanto di intervistare calciatori, raramente. Cioè, dimmi una cosa, poi ti leggiamo lo stesso. Sì, ma lo so, lo dico. Dimmi pure. Ma cosa dice? No, su Fabregas dice perché gli serve, perché noi siamo una squadra di passatori e non avevamo solo Keita capace di entrare dalla seconda linea. E dice con lui, adesso Keita ovviamente gioca più arretrato, non avevamo più nessuno, entra lui, diciamo la difesa è costretta ad arretrare, noi abbiamo più spazio, lui entra e fa gol. Mi sembra che sia esattamente quello che sta succedendo in questi prime settimane di Fabregas. E spiega che, diciamo, il fatto che Pep la cosa che più cerca è la superiorità numerica, diciamo, in una determinata zona del campo, e ti spiega come si ottiene, certo. Per cui la difesa 3 è utile se la squadra avversaria gioca con due punte, basta la difesa 3, sì. E dice è inutile sprecare un altro uomo in difesa, lo mettiamo a centrocampo, siamo di più, chiaro, e lì e racconta come in questo modo hanno tritato il Manchester United o il Villarreal, sì. Semplicemente, no, diciamo, conquistando superiorità numerica e di conseguenza tranquillità e possesso palla. Lezione tattica del professor Xavi. Sì, no, veramente, guarda, ti dico, insomma, raramente capita di parlare così bene di calcio. Ecco, sì, insomma, anche perché gli interlocutori normalmente non vogliono parlare di calcio, ti raccontano, certo, altro, poi, trattandoti come... Sì. L'ultimo dei peones, no. Ma questo è normale. Ho negli occhi, capito? Sì, invece sì. Qua. No, ma piuttosto, per chiudere, se ti dico invece Klos Gomez, cosa mi dici? Ah, grande, Klos Gomez, l'anno scorso io c'ero, il 10 dicembre, no, 20, guarda, 19 dicembre, quando Mourinho si presenta in sala stampa con un bel foglio a 4 con 13 errori di Klos Gomez, dopo una partita tra l'altro vinta da Real Madrid 1-0 contro il Siviglia, ben 13 errori, poi alcuni proprio che aveva visto veramente solo lui, però e ieri lo stesso Klos Gomez di nuovo si è sbagliato, però stavolta si è sbagliato in favore di Mourinho, fischiando un rigore che in realtà diciamo non c'era, perché il fallo era stato commesso fuori area, e infatti ieri Mourinho ha detto no, sì, l'arbitro si è sbagliato, quindi sono 14. Esatto. Diventano 14, diventano il 14 errore, esatto. Quando si dice sudditanza psicologica, insomma, cosa ci vuole fare, insomma, no, nulla. 13, capito? Si è presentato con un foglio, capito? Sì. Mi arrendo. Sì. E infatti poi è finito espulso il povero Luis Garcia, l'allenatore del Getafe, è finito espulso lui, intanto dice non è che gli ha detto niente, anzi Mourinho l'ha anche difeso, è andato dall'arbitro e gli dice perché lo mandi fuori, capito? Siamo andati oltre, capito? Non mi sorprende più nulla. Grazie Filippo, un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Filippo Maria Ricci, Klos Gomez, foglio a 4. Questo signore ha fatto 13 errori. Al giro dopo, cioè ieri sera, questo aveva fatto Mourinho, rigore per il Real inventato, e così si raccolgono i frutti. 800 24 00 24, subito dopo il traffico, di nuovo ascoltatori. Strade in diretta. Buonasera, andiamo subito in Liguria, dove per traffico intenso in direzione Genova si incontrano code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albenga e Savona e tra Varazze e la 26 dei Trafori, code anche sulla 12 Genova Roma tra Chiavari e Nervi verso Genova e in direzione Roma tra Santa Severa e Torri in Pietra. In Toscana 2 km di coda sulla Firenze Pisa Livorno per un incidente in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Scandicci, e sempre verso Firenze code a tratti tra Vicarello e la diramazione per Pisa. C'è coda anche sul raccordo Siena Firenze per un incidente nei pressi di San Casciano Nord. Code a tratti anche sull'autosole verso Bologna tra Scandicci e Roncobilaccio e proseguendo in direzione Milano tra Parma e Fidenza. Sulla 15 della Cisa 4 km di coda per immettersi sull'autosole in direzione Parma. Sulla 14 Adriatica verso Bologna code a tratti per traffico tra Forlì e Imola. Trafficate anche entrambe le carreggiate del tratto milanese della 4 e la 8 Milano-Varese, dove si incontra coda tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castellanza in direzione Milano. Si procede a rilento anche sulla 4 Torino-Milano tra Novara Est e Marcallo Mese in direzione Milano. Infine, in uscita dall'Italia, 1:30 l'attesa al traforo del Monte Bianco. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. Promo 24. Per essere all'avanguardia non bisogna mai smettere di migliorarsi. È così che nasce la nuova Audi A6 Avant, con tecnologia di costruzione leggera Audi Ultra. L'utilizzo combinato di alluminio e acciaio rende la carrozzeria ancora più leggera, e questo si traduce in minori consumi ed emissioni, massima maneggevolezza e grande controllo. Tutto senza rinunciare all'eleganza, alla sicurezza e alla spaziosità che caratterizzano Audi A6 Avant come il punto di riferimento delle vetture di classe business. A6 Avant è disponibile anche nelle versioni Ambiente e Advanced, che oltre ad assicurare un vantaggio all'acquisto, favoriscono il mantenimento nel tempo del valore della vettura. Audi A6 Avant è negli showroom Audi o su audi.it. Tempo di sport. 10 minuti più o meno e poi aggiorniamo la seduta. Guido da Brescia, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, mi sente? Buongiorno, sì che la sento. Perfetto. No, io come lei mi stupisco dello stupore per Pirlo che gioca bene. E volevo dire che l'intervento dell'ascoltatore romano tifoso del Milan che diceva che secondo lui Pirlo non è uno dei top player a centrocampo. Io posso dire che Andrea lo conosco da quando aveva i pantaloncini corti, sia anche fuori perché sono bresciano come lui e l'ho visto giocare dalle giovanili del Brescia e poi sì. Secondo me è veramente uno tra i migliori centrocampisti in Italia, perlomeno, ma certo, anche qualcosa di più. Ma dov'è la notizia? La notizia secondo me può essere quella che se effettivamente Conte avesse giocato con il 4-2-4, sono d'accordo che probabilmente qualche difficoltà Andrea Pirlo l'avrebbe incontrata, ma se gli si crea una squadra attorno che lo mette in condizioni di esprimere le sue potenzialità, secondo me non è assolutamente secondo me sicuro. Ma certo, ma mi sembra una notizia, le ripeto. Con 4-2-4 sono sincero, ma più... No, ma più che altro, ma certo, ma dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'interdizione, se non subito, è chiaro che è un giocatore che con un modulo così piantato davanti alla difesa, in due a fare fase di interdizione con gli altri quattro a girare in attacco in cerca di gol, mi sembra abbastanza folle. È chiaro che un giocatore come Pirlo andrebbe in difficoltà fisica nel giro di non tantissime partite, perché non ha mai avuto nell'interdizione il suo tratto principale, e questo lo sappiamo benissimo. Si è inventato anche interditore, lì è stato il suo grande valore aggiunto, però è evidente che non lo puoi far cuocere in un modulo di quel tipo. Mentre in una squadra equilibrata come quella di oggi abbiamo visto un normale Pirlo sui suoi livelli, magari qualcosina in più, però ci stava visto l'eccezionalità dell'evento. Insomma, nulla di cui sorprendersi, io trovo. Simone, provincia di Salerno, buongiorno. Sì, buonasera. No, volevo allacciarmi prima alla domanda che aveva fatto su Nocerino. No, ma guardi, almeno leggendo il giornale, perché l'anno prossimo va in scadenza di contratto, sì. Almeno, per quello, su tutti i giornali c'era scritto, per sì. Quello che l'hanno pagato tutto lì. In scadenza di contratto ci sarebbe ancora un anno per rinnovare. Sì, per quello, allora, almeno leggendo tutti i giornali. No, per carità. Certo, 500.000 euro, ora io non so se questa sia la reale quotazione, se questa quotazione sia ufficiale, non lo so. 500.000 euro per Nocerino mi sembra un buon affare, un ottimo affare. Poi se è in scadenza di contratto l'anno prossimo, beh, come molti altri, nel senso che sono da De Rossi a Montolivo, eccetera, di cui si parla tutti i giorni, di Nocerino naturalmente si parla un po' di meno, però c'è ancora un anno per inchiostrare il rinnovo del contratto, dunque mi sembra... Se la quotazione è quella, se il prezzo pagato da Milan è quello, Galliani ha fatto un affare su questo. Sì, no, infatti no, beh, io poi comunque sono juventino, però sentivo la radio, per cui... E poi riguardo a Pirlo, effettivamente, ma cioè, non era una sorpresa, sarebbe stata una sorpresa il contrario. Ma certo, cioè, non capisco, sinceramente, questo discorso intorno alla partita che ha fatto Pirlo, faccio un po' fatica a capirlo, perché mi sembra una partita normale da professore del 4-4-2, quale oggi Conte ha fatto, perché non raccontiamoci frottole, gli esterni erano Giaccherini e Pepe, hanno fatto il loro lavoro da esterni in un modulo di quel tipo, la Juventus, la trovo una scelta condivisibile perché è un modulo facilmente assimilabile, dunque se stai assemblando una squadra Credo sia il modulo di più immediata efficacia, mettiamola così. Pasquale da Napoli, buonasera. Sì, salve, buonasera. Innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione e sì, grazie. Mi rilascio un pochettino a quanto detto, diciamo, precedentemente riguardo alla Roma, anche se volevo intervenire per il Napoli. Sì. Sinceramente, per quello che ho visto, per le poche partite della Roma che ho potuto vedere, anche in amichevoli, per il campionato, io immagino che Luis Enrique durerà veramente poco, un po' per gli scherzi che ci sono stati con Totti. Fine ottobre, l'abbiamo già deciso. Sì, penso, penso che in realtà, poi non, in realtà poi non è nemmeno un problema, diciamo, di approccio, diciamo, che lui propone al calcio, perché anche lo stesso discorso che ci sta con Gasperini all'Inter. In effetti, quando un allenatore non viene... Immagino che in questo caso un allenatore non viene pensato per quel tipo di squadra, no, o quando magari allora, può diventare... Pasquale, allora, un attimo solo. Io condivido quanto ha detto prima Gianni De Biasi, no? Cioè, se un allenatore viene ingaggiato da una squadra, ogni allenatore ha il suo credo tattico, i suoi numerini, le sue formule e si fida di certi moduli, però arrivi in una squadra e per prima cosa guardi i giocatori che hai, soprattutto se sono giocatori di grande livello, come nel caso dell'Inter, come nel caso della Juventus. Cioè, mi sembra folle arrivare e dire questo non lo voglio perché non sta nella mia scatola, ma in che film? Secondo me, invece, come ha fatto Allegri l'anno scorso, arrivi e poi vedi chi è a disposizione, la società magari ti chiede di far giocare certi giocatori, come era successo ad Allegri l'anno scorso, che ha gestito con grande duttilità e con grande intelligenza un compito non facile come era quello di allenare il Milan. Mi sembra bizzarro arrivare lì e dire no, questo non entra nel mio sistema di gioco e dunque anche se è un campione lo lascio fuori. Ci vuole l'utilità. Quanto al discorso Luis Enrique, fuori dallo scherzo e dalle date, dalle elezioni anticipate, insomma, se prende un allenatore, quanto ho detto prima, no? Se prende un allenatore estremo come Luis Enrique, che è straniero, è nuovo a questi livelli, è nuovo per il calcio italiano, costruisce una squadra totalmente rinnovata con molti giocatori giovani, allora o hai fatto, sei andato in cerca dell'esotico a tutti i costi o hai un'idea ben precisa, dunque tu ti fidi di lui e sei disposto a sopportarne e supportarne le conseguenze. Io immagino un paio di mesi estremamente difficili per la Roma, perché non credo che tra una settimana Luis Enrique avrà risolto alcunché di quanto abbiamo visto oggi. La palla è tra i piedi della società. Se la società lo difende e dice questo è mio uomo, tu vai avanti, avrai tutta questa stagione, avrai il tempo che serve, non mi interessa dei rumori della piazza, non mi interessa di quello che dice o scrive Totti, tu allena la Roma, allora se la società si comporterà in questo modo poi vedremo i frutti di Luis Enrique, altrimenti elezioni anticipate ad ottobre, non ci piove. Massimiliano da Milano e poi Stefano da Novara. Buonasera Massimiliano. Io ho compiuto da poco 40 anni e sì, nonostante l'età io stamattina ho pianto da milanista, sì, perché ho visto non un giocatore di più, perché a parte che mi chiedo ancora perché l'abbiamo lasciato andare, ma credo che da una parte trovare un giocatore che sappia sempre cosa fare con la palla non è non credo sia usuale, e l'altra cosa, Pirro ha una calma che sembra quasi una flemma, ma non è flemma, che per giocare a calcio credo sia, non so se fondamentale, ma sicuramente utile. Ragazzi, però, ma lo sappiamo. No, ma ci tenevo a dirglielo perché da milanista, come dire, anche oggi ma mi sono sentito da Juve. Certo, a maggior ragione da milanista, quante volte l'ha visto giocare così, su questi livelli? Magari non nell'ultima stagione, però per 10 anni sicuro. Quindi capisco tutto, non la sorpresa, di fronte a una partita di Pirlo giocata alla Pirlo. Stefano Novara, buonasera. Buonasera a tutti. Dica. Innanzitutto volevo dire che sono d'accordo con il novarese che è intervenuto prima, che parlava del nostro ritorno dopo 55 anni e tutte le cose belle che si possono dire a riguardo. Da parte mia volevo fare una nota polemica, sì, se possibile. Certo che volevo mandare un saluto a tutti quei criticoni sui giornali, scribacchini, che davano a Novara già per retrocesso prima di che scendesse in campo. Sì. Grave errore. È un grave errore, siamo abituati a questo. Ma sa perché è un grave errore? Non perché lei sta parlando con me. È un grave errore perché il Novara ha quello. Che rumoracci sento. Il Novara ha quello che molti non hanno, cioè ha un complesso, ha una squadra rodata, ha lo stesso allenatore, ha lo stesso impianto di gioco, al di là dei singoli interpreti, in questo caso sì. può valere il discorso squadra, modulo, interpreti, gioco. Il Novara invece secondo me è una squadra che può correre per la salvezza e per il titolo di sorpresa della stagione. Ci fermiamo qui, grazie a Giorgio Lucca in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Domani dalle 2 c'è Gigi Garanzini, ci sentiamo venerdì, buona serata.